Allora, saluto tutti, direi di iniziare. So bene che molti arriveranno nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Ci sono telefonate di persone bloccate nel traffico, qualcuno trattenuto in commissione parlamentare. Insomma, iniziamo perché siamo costretti dai tempi e altrimenti non ce la faremo. Insomma. Abbiamo per fortuna anche tanti amici che registrano videoregistrazioni anche Radio Radicale, per cui ringraziamo loro perché poi tutto quello che si dirà non verrà perso. E io inizierei con una persona importante, importante per questa manifestazione, che è Carla Riveroli, assessora alle politiche culturali dell'undicesimo municipio. Perché dico importante? Perché è stata per noi fondamentale questa iniziativa ideata e organizzata da Comunicazioni. Senza Carla Riveroli non ci sarebbe stata. Senza il suo sostegno politico, professionale e umano, tutto ciò non sarebbe stato possibile. Per cui a nome di Comunicazione e di tutti voi ringrazio veramente di cuore Carla Riveroli. Ma io penso che intanto vabbè, mi presento, sono Carla Riveroli, sono l'assessore alle politiche culturali, pari opportunità, politiche giovanili, un po' di cose, anche intercultura di questo municipio. E invece devo dire che io vi devo ringraziare, cioè non è esattamente il contrario, perché a Roma stiamo vivendo un momento di grande difficoltà, credo anche nel paese. E quindi la proposta di una manifestazione come questa, interdisciplinare, quindi che abbraccia più discipline, dall'arte alla ricerca, alla discussione sul modello di impostazione anche ideale che noi vorremmo dare a questa società, credo che in qualche modo rientri, diciamo, nelle nostre corde, come diceva la regina bianca di Alice in Wonderland, rientra nei nostri voti. E quindi per noi ogni volta che viene fatta una proposta di questo genere è una ricchezza, perché sicuramente aiuta e contribuisce ad arricchire il dibattito e la riflessione più profonda e approfondita rispetto anche ai tempi che stiamo vivendo e a quelle che sono le leggi che ci regolano e anche quali sono i contesti sociali in cui ci troviamo ad intervenire voi come professionisti della comunicazione o del sociale, noi come amministratori di un ente locale di prossimità, in questo caso, che fa anche sociale, che in teoria dovrebbe accompagnare, poi dico in teoria e spiegherò perché, processi culturali e quindi credo che sia assolutamente un momento, come dire, importante, anche se apparentemente non visitato, ma che risponde a una necessità profonda, che invece noi dobbiamo in qualche modo assecondare, esplorare, declinare, perché appartiene a uno dei temi, quello appunto dell'identità e dell'identità plurima, ma anche della diversità e del modo in cui noi riusciamo a coniugare, no, queste varie forme di diversità, appartiene proprio ai nuovi temi che una società sempre più globalizzata pone alla nostra attenzione, sia come cittadini e cittadine consapevoli, ma anche come coloro che in qualche modo devono disegnare le strategie perché sempre più venga, come dire, assecondato il tema dell'inclusione e della valorizzazione delle differenze, anziché quello dell'abolizione delle differenze o della, come dire, omogeneizzazione. Ecco, questa è una cosa che rifiutiamo assolutamente, è un concetto sembra complesso, ma in realtà facilissimo, che in qualche modo noi abbiamo come municipio, perché io qui porto la mia esperienza di amministratrice locale. Intanto comunque voglio cogliere l'occasione per ringraziare, poi lo farò, l'ho già fatto privatamente, collaboriamo da anni, la struttura che ci ospita, questo splendido esempio di archeologia industriale che è l'Istituto Superiore Antincendi, che è la scuola di formazione dei Vigili del Fuoco. Rappresentanza la vice direttore dell'ISA, che è la dottoressa Maria Cavaliere, che poi vi presenterò, e un ringraziamento particolare a, Florindo Ruta e alla dottoressa Cavicchioli, che è la responsabile delle relazioni esterne dell'Istituto Superiore Antincendi, che ci hanno, come dire, aiutato e assecondato anche per ciò che poi riguarda non solo gli spazi messi a disposizione a titolo assolutamente gratuito, ma anche gli spazi espositivi che voi vedrete essere di una bellezza rara, perché questa struttura una volta corrispondeva ai magazzini generali di Roma. E c'è ancora in piedi questa struttura bellissima che portava le merci al fiume, quindi anche il luogo che ci ospita, il luogo che appartiene alla storia di questa città. Scorrendo le cronache di questi giorni, perché io credo che poi una manifestazione come questa sia importante, che voi avete potuto leggere quello che è successo in Europa, della Francia, poi senza che nessuno di noi avesse detto che lo eravamo, in qualche modo anche appoggiata dal governo italiano rispetto alla questione Rom, in qualche modo responsabile la nostra assessora alle politiche giovanili alla scuola del Comune di Roma ieri, quando la Pisacane, davanti a un coro di bambini stranieri che cantava Shurpadun dalle belle brai bianche, quindi in dialetto tra l'altro leghista, come dire, tra virgolette, candidamente diceva che questi ragazzini, anche essendo nati in Italia, sono assolutamente stranieri, e quindi non scherziamo su questa cosa. Questa è una città dove l'esperienza dei menù etnici è stata abolita, dove i poli intermundia sono stati chiusi, dove tutte le conquiste degli ultimi anni che in qualche modo abbiamo sostenuto, che abbiamo fortemente voluto, sulle quali abbiamo lavorato, perché sono tutte iniziative volte all'integrazione, alla valorizzazione delle culture, che come voi sapete non sono cose che si iniziano e si finiscono in un giorno, ma che richiedono anche mesi, a volte anni, per entrare anche nell'immaginario collettivo, cioè per essere considerati una pratica positiva. Bene, tutte, sistematicamente tutte queste iniziative sono state lentamente dismesse, come se non si volesse vedere quello che la realtà ci consegna, che è quello di una società multietnica, dove poi ho visto tra l'altro essere all'ordine del giorno la componente di immigrati, ci sostiene, ci aiuta per ciò che riguarda l'evoluzione della nostra società, sia dal punto di vista sociale ma anche economico e culturale. Ecco, sembrerebbe voler mettere in moto un meccanismo di rimozione globale di questo tema, come se fosse di secondaria importanza. Invece io credo che non sia così, e penso che anche il tema della valorizzazione delle potenzialità femminili in questo paese, dove c'è un restringimento anche degli investimenti su quelle che sono le politiche sociali rispetto alle fasce di utenti meno abbienti, perché voi sapete, questo ce lo consegnano le indagini dell'Istat, c'è una porzione della nostra popolazione che è sempre più rigettata nella fascia dell'indigenza. Queste persone si recano ai servizi sociali, quindi vengono da noi, cioè noi siamo coloro che accolgono questa massa di persone, come all'epoca abbiamo accolto pure coloro che uscivano dalle carceri, no? Con un kit di sopravvivenza che durava un mese, e poi dopo noi, senza che le avessimo previsti nei nostri bilanci, abbiamo dovuto, come dire, far fronte anche a queste emergenze. E tu parli di si parla di emergenza di identità e emersione dell'identità, che potrebbe, come dire, anche essere giocata un po' dal punto di vista etimologico, no? L'emergenza con un po' di licenza poetica potrebbe anche voler dire, bene, facciamola emergere questa identità diversa, no? Valorizziamola, ma non la consideriamo un'emergenza nell'accezione negativa, cioè qualcosa da cui ci dobbiamo difendere, ma cerchiamo di considerarla anche come una prospettiva di arricchimento, come qualche cosa che ci aiuta a includere e non a rifiutare. Perché questo? Ve lo dico, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, no? Piccola esperienza personale, poi la chiudo perché non voglio sottrarre altro tempo. filippino lo sa, cioè io sono ebrea, tra 4 ore e mezzo inizierò il digiuno del Kippur, e non è facile far capire anche che spesso una riunione va spostata perché inizia lo Shabbat, o perché non posso andare a votare se è il giorno di Rosh Hashanah. C'è un'intesa. Allora, io credo che essere un'italiana di fede ebraica o essere una cittadina italiana, no, che proviene da un'altra cultura, debba essere tranquillamente inteso come una normalità e solo una, semplicemente una differenza. Poi c'è un discorso di regole, semmai il tema è sulla legalità, semmai il tema è sulla convenire su un linguaggio di comunicazione, di conoscenza anche delle tradizioni del paese in cui si vive, delle leggi che sono vigenti. Ecco, mai nessuno di noi ha detto che essere diversi sia lascia passare per salire sull'autobus senza pagare il biglietto, oppure no, usufruire di benefici senza dare un cambio, quello che normalmente dà ciascun essere umano nella società. Oppure nessuno di noi ha mai detto che non debba essere accolto chi proviene da un paese dove è a rischio per le proprie idee politiche o semplicemente per la propria definizione di persona o sull'orientamento sessuale. Ecco, diciamo che c'è un discorso molto più complesso che va affrontato, ma che non deve, come dire, trarci in inganno solo e semplicemente perché si fa riferimento alla provenienza. C'è un mondo in cui non solo le idee circolano, le merci, ma anche le persone. Stabilire dei confini, e soprattutto stabilire dei confini culturali, credo che sia l'ultima cosa che ci serve, e soprattutto quella che non ci aiuta, perché al contrario ci spinge in un ghetto mentale dal quale poi è complicato uscire fuori, perché ci chiude la possibilità del ragionamento e ci chiude la possibilità anche dell'evoluzione come esseri umani, non soltanto poi come amministratori. In questo municipio noi abbiamo, per le politiche di infanzia e adolescenza, introdotto il concetto della multiculturalità in tutti i progetti della 285. La legge 285 è una legge che si occupa di infanzia e adolescenza, quindi in tutti i nostri progetti, che siano ludoteche, che siano centri giovanili, ma anche abbiamo aperto, siamo l'unico municipio a Roma che ha un centro, un polo per l'intercultura. Noi abbiamo voluto che dentro venisse affrontato in modo sistematico il tema dell'inclusione e dell'integrazione, tant'è che siamo al 5º anno, oltre questi progetti, anche di un progetto strategico che si chiama Bambini e Bambine, Cittadini del Mondo, che si prefigge di diffondere anche la conoscenza delle tradizioni, in parte della lingua e delle usanze e delle religioni dei bambini che sono ospiti nei nostri anidi e nelle nostre scuole materne. Da quest'anno estenderemo il progetto anche ai ragazzi delle elementari e delle medie, e abbiamo avuto degli ottimi risultati, perché abbiamo visto che riusciamo a intercettare questi nostri nuovi cittadini e cittadine. Tra l'altro l'ultima indagine della Caritas ci consegna un quadro diverso: oramai sono le donne immigrate quelle che rappresentano la percentuale più alta di presenza rispetto al passato. Una volta arrivavano soltanto come ricongiungimento familiare, adesso arrivano anche per lavorare. Queste donne lavorano, mantengono le loro famiglie, ma aiutano noi ad andare a lavorare e quindi a migliorare anche la nostra presenza all'interno della società. Il discorso sarebbe veramente lungo, ma quello che sostanzialmente ci preme è che lo abbiamo fatto adesso, lo faremo ancora, tenderemo ad appoggiare, assecondare qualsiasi tipo di iniziativa vada nella direzione della conoscenza, perché purtroppo qualcuno diceva che era il lavoro che rendeva liberi, invece io la penso un po' come quel grande psicanalista che era Erich Fromm, anche uomo di cultura, che diceva che invece è la conoscenza che rende liberi. Quindi io credo che questo sia un momento importante, e mi auguro che anche nei prossimi giorni, io purtroppo non potrò essere presente perché, come potete ben immaginare, questa sarà una delle nostre festività più grandi, quindi io mi chiuderò non solo nel digiuno ma anche nella preghiera e nella riflessione, e auguro a voi di fare la stessa cosa. Non proprio la preghiera, insomma, vorrei non essere confessionale, in questo non lo sono, sono anche una persona laica, però credo che insomma questa sia una buona occasione per pensare un po' e immaginare anche di costruire una società diversa che non restringa il pensiero, ma anzi lo ampli. Grazie, io vorrei adesso invitare qui la dottoressa Maria Cavaliere, in rappresentanza del direttore dell'ISA. Buonasera. Ecco, buonasera a tutti. Io voglio semplicemente portare il saluto del direttore dell'Istituto Superiore di Ingegneri, l'ingegnere Loris Munaro. Quindi ringraziarvi per aver scelto anche per quest'altra manifestazione, per quest'altro evento, l'Istituto Superiore Antincendi. Quindi davvero con grande condivisione, devo dire, vi accogliamo questo evento. So che la collaborazione con l'undicesima circoscrizione di Roma, del Comune di Roma, è da tempo, quindi voglio dire c'è una sorta di collaborazione oramai consolidata. Voglio aggiungere solo una piccola cosa. Ovviamente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi l'Istituto Superiore di Incendi, condivide, diciamo, questi obiettivi perché in qualche modo si avvicinano agli obiettivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cioè il superamento delle difficoltà di chi vive, diciamo, situazioni un po' di disagio, ecco. In qualche modo voi lo fate con l'immigrazione, con le crisi di identità per chi subisce un cambiamento, diciamo, notevole nella propria vita. Noi lo facciamo d'altro canto perché ci ritroviamo spesso ad affrontare, a risolvere delle situazioni nel servizio tecnico urgente, proprio a dare un contributo e aiutare le persone che si trovano in difficoltà a raggiungere una situazione di normalità. Quindi buon lavoro, sperando, ecco, che ogni volta si fa un piccolo passo in avanti, ecco, proprio con l'obiettivo di rendere normale ogni ambiente, ogni luogo che per diversi motivi si è costretti appunto a raggiungere o a vivere. Quindi buon lavoro. Allora, noi ringraziamo invece molto Lisa, perché il nostro esperimento, che andava fatto per forza, essendo un esperimento in sicurezza, questo posto è adattissimo, non ci poteva essere posto migliore, oltre che più bello, per muoverci in questa iniziativa, in questo evento che consideriamo la prima edizione. E quindi ringraziamo veramente tanto Lisa. Allora, io inizierei con quella che doveva insomma essere un po' la presentazione di questo evento. Io, qualcuno di voi mi conosce, sono Pino Di Maula, sono un giornalista e quindi come tale proverò a introdurre i lavori di questo appuntamento. È un appuntamento ideato e organizzato da una piccola associazione, piccola come possono essere i neonati, e tale comunicazione, proprio una neonata, ma una neonata, vi dirò, molto bella. E che cos'altro è comunicazione? Comunicazione è un gruppo, sono ricercatori, creativi e giornalisti organizzati in associazione proprio per preparare emergenze di identità. A nome di comunicazioni ho già fatto e voglio rifare, voglio ringraziare di nuovo Carla Di Veroli. E poi voglio ringraziare anche Catarci, Andrea Catarci, per la disponibilità e l'empatia intelligente, quanto anche la sua molto affettuosa, che ha avuto con questa iniziativa. Ringrazio tutti i relatori, perché il loro contributo è stato importante, e tutti voi presenti, perché questo primo esperimento aveva bisogno del vostro affetto. E quindi per essere qui vi ringrazio molto. È un primo timido ma convinto esperimento per dar vita a una ricerca, direi, particolare, per certi versi originale, ma questo lo vedremo poi alla fine, vedremo se è davvero così originale. Ad ogni modo, voglio dirvi che gli ingredienti per realizzare questo esperimento sono stati raccolti in un anno di lavoro, questo è importante dire. Sono stati raccolti in un anno di lavoro pescando tra suggestioni e pensieri che la cronaca culturale, sociale e politica ci ha spinto a studiare e obbligato ora a rilanciare. Così come vorremmo fare oggi, interrogando e ascoltando nuovi interlocutori. Io andrei con ordine. Inizierei da gennaio 2010. A gennaio 2010, quando a Rosarno per due giorni è scoppiata la caccia al negro, non so se vi ricordate, ma sicuramente sì. La colpa dei braccianti provenienti dal continente africano è stata quella di voler riaffermare, pensate un po', la legalità. Quei lavoratori volevano affermare la legalità, nonostante le volgari campagne mediatiche che li dipingono come barbari che ci occupano le nostre terre, togliendoci il lavoro. La loro colpa, dei lavoratori migranti, era in pratica di essere riusciti dove avevano fallito le istituzioni e le forze dell'ordine che controllano il territorio con l'uso della forza. Dove ha fallito persino il vecchio e glorioso e organizzato Partito Comunista e dove nulla hanno potuto anche l'antimafia e le geste eroiche di pochi della società civile. I braccianti africani si sono ribellati come gruppo, ripeto, in gruppo, senza neanche l'ausilio di organizzazioni sindacali. Si sono organizzati in modo autonomo e spontaneo contro la malavita organizzata. A Rosarno, la forza collettiva della non violenza, anche qui ripeto, collettiva, è stata insomma per due giorni simbolicamente, purtroppo solo simbolicamente, ma comunque vincente sulle armi della più potente delle organizzazioni criminali. Ma per capire bisogna, e qui cito pericolosamente Mao, camminare pensando, e per pensare a me è servito arrivare fino a Firenze per poi ritornare a Roma all'Eliseo, dove rispettivamente la casa editrice La Sinodoro e il settimanale Left avevano organizzato per motivi diversi incontri culturali di grande interesse. A Firenze ho ascoltato le nuove proposizioni sull'economia di Anna Pettini e di Andrea Ventura per presentare il libro di Carlo Patrignani su Riccardo Lombardi. All'Eliseo di Roma invece ho sentito le domande poste all'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti, dal preside della Facoltà di Studi Orientali Federico Masini e dalla dottoressa Elena Pappagallo. Domande sulle nuove vie per l'emancipazione femminile e dei migranti. Domande che avevano un respiro più alto rispetto ai soliti ragionamenti politici. Per questo forse producevano, era evidente, si sentiva, un effetto destabilizzante, insieme stimolante. Producevano un qualcosa che sapeva di speranza e di concretezza, mai udita fino ad allora. Sembravano dire finalmente di trasformazioni davvero possibili anche nella società. In quegli incontri si parlava di alleanze per emanciparsi insieme. Si diceva che non fare più le casalinghe non può significare solo avere più soldi per acquistare più frigoriferi e il cellulare di ultima generazione. Si parlava dell'emancipazione come causa ed effetto di qualcosa che attiene, pensate un po', all'identità. Un'identità diversa, un'identità non più appiattita sull'economia del bisogno. E qui bisogna, vorrei essere chiaro, cioè quando dico bisogno e non esigenze, vorrei indicare quel tipo di bisogno che, per quanto legittimo, porta necessariamente a lottare per un lavoro concepito con un unico scopo, che poi è frutto del pensiero capitalistico, produrre per consumare, no? Questo secondo me era lecito fino agli anni 60 o 70, ma ora probabilmente, nonostante le esternazioni del pontefice di Federmeccanica sulla flessibilità, nonostante ciò, forse non lo è più, forse non è più lecito, forse il lavoro adesso va cercato e difeso per fare anche altre realizzazioni, per soddisfare le esigenze dopo aver soddisfatto i bisogni primari. È come se dovessimo insomma riconvertire il pensiero economico La soddisfazione del principio del piacere, la scienza economica dovrebbe ora servire a facilitare, lo diceva l'assessora Carla Di Veroli, l'emersione di nuove identità. Ecco, in questo modo, laddove può esserci un'emersione, a volte anche solo potenziale, di nuove identità, ci si adopererebbe per farle spazio, per metterle al riparo. In questo modo non scatterebbe più l'emergenza sicurezza, ma bensì l'emergenza identità. Pensate che bello. Oppure pensate che sia un'utopia. Eppure dovrebbe essere la norma, semplicemente il segno di un progresso umano che si rispetti. È paradossale, viceversa, che oggi, dove può emergere un'identità, si opponga un'immagine di pericoloso, di strano, di non proprio normale, insomma di non umano. Questo vale per gli immigrati, vale per le donne e vale anche per gli artisti. Io a quell'immagine però vorrei dire basta. Non è più giustificabile il fatto di non comprendere che far spazio ai migranti non vuol dire essere né fessi né buoni, ma semplicemente saggi, mi verrebbe da dire. Con loro la società si garantisce un duplice effetto positivo, da cui ne scaturiscono altri, forse ancora più importanti. Permette ai migranti di realizzare un cambiamento che soddisfa certamente i loro bisogni. Loro, come tutti, devono avere garantiti permesso di soggiorno, cittadinanza, salari e contributi, questo è chiaro. Ma anche un movimento, un qualcos'altro che ci fa fare insieme un salto di qualità. Come se una trasformazione dovesse attivarne un'altra consentendo un rifiuto e una separazione dalla schiavitù, io la chiamo schiavitù culturale e materiale dell'ultimo secolo. Idee nuove che si scontravano allora, da almeno un paio d'anni, insomma come oggi, con metodi di pensieri bloccati dal calcare delle ideologie del Novecento e chissà da cos'altro. Mi viene da pensare all'ideologia tedesca, quella del 1846, quella che segna il passaggio dal Marx giovane a quello maturo. Ecco, questo è il calcare, pensare ancora che l'essere umano sarebbe tale differenziandosi dagli animali quando inizia a produrre da sé gli strumenti per la sopravvivenza. E allora le donne, gli immigrati, tutti quelli che non hanno salario, i bambini, aggiungendo forse a questo punto gli artisti, pensate che gli artisti fanno tutto fuorché pensare all'utile, e tutti coloro che per ragioni diverse restano fuori dal ciclo produttivo. Un bambino di 3-6 mesi che non è capace di fare i cuscinetti a sfere, secondo voi non è un essere umano? No. Allora, seguendo questa logica, quella logica razionale, ahimè, verrebbe da dire che l'unica speranza per gli immigrati sia dunque, a questo punto, acquisire, come per gli operai dell'Ottocento, un'identità collettiva di classe. E se fosse così, basterebbe lottare tutti insieme per far diventare classe anche i migranti. Lo impone un po' questo che chiamerei una sorta di patto con il diavolo, con la ragione, con la dea ragione. Ma è davvero così? Pensiamoci, deve essere ancora così? Forse no, forse qualche passetto avanti ce lo meritiamo per non cedere più al ricatto che obbliga o a essere schiacciati dall'immagine di massa pericolosa o a rinunciare alla propria identità personale per acquisirne un'altra più confortante di classe, così da essere omologati e quindi riconoscibili all'interno delle griglie burocratiche, sociali e culturali della società e quindi anche del Vaticano. No, ci deve essere pure un'altra strada. E qui sta la sfida della sinistra. Qui sta la sfida della sinistra, secondo me, sì. Si sa intuire il vulnus del dibattito attuale per cogliere l'opportunità di superare radicalmente le categorie ereditate dall'Ottocento, non abbattendo però le differenze tra progressisti e conservatori, ma anzi rilanciandole con nuovi e più profondi e più fondate proposizioni teoriche. È una sfida che vaga nell'aria sotto forma di domande poste ai politici, come detto già da molto tempo. Abbiamo parlato prima delle domande poste a Bertinotti e a tanti altri politici. Ma scusate, ma per me hanno trovato una risposta che io considero, definisco tale, soltanto un anno fa. Soltanto un anno fa, vedendo un'immagine realizzata da Massimo Fagioli per il quotidiano Terra. Un'immagine pubblicata il 25 agosto, realizzata solo qualche giorno prima, subito dopo la strage in mare di 73 eritrei. Il fatto risale appunto a un anno fa. Era il 20 agosto 2009, quando sbarcarono a Lampedusa pochi disperati per testimoniare la loro tragica odissea, fatta di stenti, di fame, di orrore e della morte dei loro compagni. Erano dei sopravvissuti, moderni e rarinantes. Non è un caso, credo, che quel quadro manifesto titolasse proprio così, rarinantes. Il viaggio di quei sopravvissuti, anziché far rabbrividire le coscienze, divenne oggetto di speculazione diplomatica tra i nostri governanti e quelli di Malta, in un insopportabile palleggio di responsabilità. Non so se ricordate i titoli dei giornali di un anno fa. Purtroppo anche l'opposizione in quelle ore era a godersi le ferie e nelle poche dichiarazioni arrancava, questa era la mia sensazione, con affermazioni deboli, mentre, e qui è l'assurdo, è veramente assurdo, era il Vaticano a parlare di nuova Shoah. Loro, il Vaticano, non l'opposizione, non l'associazionismo, ma la gente, non, neanche la gente che rientrata dalle ferie per prendere a calci magari i politici che consentivano quello scempio di civiltà, no. A quel tempo lavoravo con pochi eroici colleghi e creativi al quotidiano Terra, dove peraltro un furto del giorno prima ci consigliava di chiudere battenti fino all'arrivo di nuove macchine. Ma l'indignazione per quelle morti, fece scattare nella grafica e nei pochi giornalisti rimasti con me una reazione straordinaria. In poco tempo si rese possibile l'operatività del sistema che pubblicava il quotidiano. A quel punto ci mettemmo, come si fa in questi casi, al telefono per raccogliere contributi e per raccontare e denunciare così quell'orrore, frutto perverso degli accordi finanziari tra Berlusconi e Gheddafi, e che continuano a fare danni quell'accordo. Fu così che tra tanti segni di solidarietà inviati dai lettori fantastici del quotidiano Terra, ricevemmo con gioia anche quello incredibile di Massimo Fagiolo, che appunto di fatto rese possibile l'uscita del quotidiano grazie al manifesto che elaborò per noi con un testo e un'immagine a commento di quei migranti morti in mare. Insomma, emergenza di identità nasce così, da questi e mille altri stimoli che ci hanno convinto a continuare la lotta contro il degrado umano con la ricerca oltre che con la piazza. Tanta determinazione, però, anche una certa ostinazione nel realizzare a tutti i costi questa iniziativa, tutti i costi, cioè nel senso abbiamo fatto a meno anche degli sponsor, non va però in alcun modo fraintesa, mi raccomando, cioè non vogliamo sostituire chi per missione politica o istituzionale o per lunga storia di impegno si occupa normalmente di questi temi, anzi vogliamo soltanto rafforzare la loro azione, ripensando insieme magari a quel che molti di loro hanno già elaborato e fatto. Pensieri e azioni molto spesso di straordinario valore. Qui non c'è ancora, deve arrivare, ma insomma valga per tutti l'opera svolta da Luigi Manconi, che con la sua conoscenza e il suo sapere smaschera l'ipocrisia della politica e della cultura che vuol negare identità umana a persone costrette magari a sopravvivere e ahimè spesso purtroppo a morire in carcere o nei campi profughi. Insomma, la manifestazione si apre con questo tavolo e a seguire l'inaugurazione di una mostra d'arte che proseguirà nei prossimi giorni, quindi domani ci sarà un bel forum degli autori e diverse letture di brani e performance di danza. Tutto ciò perché ne siamo convinti, se un pensiero sa vestire e muovere l'arte, questa, sono convinto, può aiutarci come linguaggio a spiegare quel minus che pesa più di un macigno su migranti e a noi ancora sulle donne. Ma non solo, anche sugli artisti. La loro colpa è la loro caratteristica, la loro peculiarità. Gli artisti, infatti, sanno mettere i piedi in quell'irrazionale, che è forse l'espressione più vera e più profonda dell'identità umana. insomma, non guasta mai, insomma, guasta mai ricordare la lezione impartita da Shakespeare, che con immagini e sintesi poetica descrive aspetti della realtà umana che la scienza razionale moderna non sa ancora cogliere. Non lo so, forse a questo punto dovrebbe essere più chiaro il perché di migranti, donne, artisti. Perché abbiamo voluto legare questi tre attori del nostro tempo? La tesi è ovviamente tutta da dimostrare e speriamo da migliorare insieme, anche se parte da certezze, ha infatti ancora dei contorni tutti da definire. È un po' come le mostre, come alcune delle opere che potete vedere esposte qui giù alla mostra. Per noi, comunque, migranti, donne e artiste sono tre vittime diverse degli stessi carnefici, che poi, in fondo, sono due teste che agita lo stesso mostro, ovvero il pensiero razionale, quello definito il vecchio caro logos occidentale, e un certo metodo di pensiero religioso. Apparentemente diversi, quasi fossero alternativi, operano, secondo me, l'uno come braccio armato dell'altro, per proiettare sempre sullo sconosciuto, sullo straniero, sulle donne, sugli artisti, un'immagine, un qualcosa di subumano. In pratica, l'ipotesi di lavoro è che artisti, donne e migranti, per il solo fatto di essere, di esistere, debbano essere, in modi diversi ovviamente, questo è chiaro, ma comunque sempre negati, sempre svuotati, sempre annullati. Annullati. E qui il termine può far tremare quando si arriva al fisico, questo è evidente, lo potranno testimoniare molti dei relatori che mi seguiranno. Comunque, la nostra tesi, il nostro pensiero, che ha mosso tutto in questo tempo, tutto questo lavoro, è che non c'è soltanto uno spostamento nello spazio e la povertà dietro il flusso migratorio, ma appunto una ricerca di nuovo, un nuovo che implica un movimento di identità. Come non c'è soltanto bisogno di soldi in una donna che rifiuta il destino di casalinga, ma ricerca di nuovo anche qui, che implica un movimento di identità. E per questo forse non si digerisce quel movimento, proprio non si digerisce. Per questo lo si vuole bloccare e respingere. Comunque, Henri de Luca in una bella poesia spiega come non sia possibile riportare le persone indietro. Lui dice: potete respingere, non riportare indietro. Insomma, questo è il nostro punto di partenza, che, come dicevo all'inizio, ci scagiona dall'accusa e dal rischio di voler prendere il posto di chi affronta queste singole materie decisamente meglio di noi, ma magari senza metterle in relazione fra di loro. Denunciare il razzismo è qualcosa che fanno da sempre le associazioni come Lega Ambiente, Migrare, A Buon Diritto, l'ARCI e decine di altre organizzazioni, lo fanno in tanti, anche i partiti di sinistra, anche i radicali. Tuttavia, pur aderendo e partecipando alle iniziative di queste organizzazioni, c'è stato quell'evento che vi dicevo un anno fa, che più di ogni altro mi ha fatto capire che non basta, che si può provare a pensare altro per rifiutare la volgarità della cultura di destra e l'impotenza di quella di sinistra, che poi, come è noto, può finire, per impotenza appunto, ad essere persino più violenta della destra. Basti ricordare le iniziative di fine legislatura del povero Prodi. Vi ricordate? Quando vide i suoi, compresi molti amministratori locali, i cosiddetti sceriffi, inseguire sul tema sicurezza gli slogan di Bossi e di Calderoli, spesso in maniera elettoralmente fallimentare. E così è stato, così è stato, mentre Fini si preparava a diventare il paladino dei laici e della legalità. Succede anche questo se non c'è una proposizione teorica in grado di produrre reali trasformazioni, prima culturali e poi sociali e quindi politiche. Comunque le proposizioni teoriche le lascio a chi ha il genio per elaborarle. Nel nostro piccolo, come comunicazioni, un salto per tentare almeno una lettura che contenga in sé un miglior rapporto con la realtà, penso che possiamo tentarlo. Possiamo ripartire dal termine massa che avevo evocato prima e fare un po' una ricerca etimologica. Ho visto che deriva dall'antica Grecia, con maizan, che sta a indicare la pasta per fare il pane, e maisen, che vuole indicare appunto impastare. Poi l'estensione di massa, da pasta fermentata che serve a fare il pane, a gruppo di persone invece, risale a San Paolo e a Sant'Agostino, che parlano di peccatori come massa peccati in conseguenza del fallo di Adamo, della caduta di Adamo. Loro parlano di massa dannata, massa perditionis. Curioso. Ancora più curioso è, scusate la parola, non è curioso, è la propaganda nazista che si sia costruita nella cosiddetta, è stata costruita sulla cosiddetta strategia dei gruppi. I gruppi erano allora, come lo sono oggi, penso, poi mi direte meglio voi, comunque penso espressione di identità e di rapporto sano. Il branco credo che sia solo un'eccezione, come in fondo lo è la malattia. E loro, i nazisti, operavano per distruggere quei gruppi, operavano per distruggere quei rapporti sani, operavano per distruggere quelle identità, cercando di distruggere il più possibile i loro tradizionali legami, per poi consentire a Hitler di rivolgersi alle masse indistinte e in loro nome conquistare il potere ed esercitarlo. Nel 1933, al congresso di Norimberga, parlò delle verità eterne che il nazismo avrebbe realizzato, verità che rispondevano al sicuro istinto delle masse, un istinto, diceva, che avverte e salva. Questo fu in principio il nazismo, prima poi diventò la peggiore, sapete benissimo, la più terribile espressione del razzismo. Qui qualcuno dei relatori forse potrebbe fare dei nessi fra questi metodi di pensiero citati, io me ne guardo bene, a me interessa distinguerli da Marx per capire meglio il superamento della sua concezione di massa. Lui usa massa come termine opposto a società. Marx voleva così indicare quelle forze sociali rimaste fuori dalla società costituita. E d'altronde non condanna la massa per peccati originali, ma gli offre la speranza di avere un'identità, certo, a condizione che si organizzino politicamente per conquistare e ottenere un ruolo, chiaro, nel processo di produzione e diventare così classe. Questo pensiero logico penso però sia superato. È stato importante nel passato, questo deve essere chiaro, ma era giustificabile e coerente con un'altra realtà, una realtà legata esclusivamente alla sopravvivenza fisica, come abbiamo già detto. Era l'avvento, quella realtà lì era un'altra, stiamo parlando dell'industrializzazione dell'Ottocento. Lì è stata una fortuna aver elaborato quella teoria e poi averla trasformata in prassi. Ma oggi no, non è più accettabile, non è sufficiente per la nostra realtà. Qui forse a questo punto dovrei chiudere per ritornare all'attualità, dovrei citare l'ultimo orrore, l'ultima emergenza, ma ce l'ha fatto Carla, no? Sarkozy, la motonave libica che spara con le nostre armi, con i nostri militari, sui nostri pescherecci, pensando che erano clandestini, che fossero clandestini e quindi si potevano sparare, si potevano uccidere. Ma io chiuderei così. Dopo Marx mi fa piacere concludere con una sintesi poetica. Come dicevo all'inizio, forse la poesia può dire più e meglio di ogni altra mia parola. Che dicevo, come torno quindi all'evento che, come dicevo all'inizio, non mi ha fatto riflettere. Anche lì si fa riferimento alle masse, ma in tutt'altro modo. Vediamo come. Garinantes. Vennero Attila e Alarico, distrussero l'impero romano, non fu rivoluzione. Ora vengono dal mare e costringono, senza violenza, nel loro sangue, ad una nuova cultura di esseri umani uguali. Una massa di forza lavoro che libera le donne dalla procreazione forzata. Più in basso, altre parole sfidano l'amore. Con gli occhi di una donna lasciati fuori dal velo per dire di una trasformazione individuale, culturale e sociale possibile. Posso dare il mio volto al tuo futuro. Grazie. Salutiamo l'assessora Carla Riveroli e la ringraziamo di nuovo. E a questo punto, dunque, c'è una parte importante che ha impegnato da lungo tempo due ottimi amici, due grandi studiosi che sono il professor Ernesto Longobardi, il professor Giuseppe Vitaletti e la dottoressa Chiara Agostini in una relazione che ora Chiara Agostini ci illustrerà. Dov'è Chiara? Al tavolo vorrei tutti e tre però. E vorrei salutarli anche con un applauso e ringraziare anche loro per lo sforzo enorme che hanno fatto. Allora, buongiorno, grazie per essere qui. Io appunto oggi vi presento questo lavoro che è frutto di una riflessione comune che abbiamo condotto appunto, come diceva, forse meglio uso l'altro. Come diceva Pino negli ultimi mesi con Ernesto Longobardi e Giuseppe Vitaletti. Questa riflessione ci ha portato sostanzialmente a definire e ad inquadrare il fenomeno dell'immigrazione come una vera e propria opportunità sia dal punto di vista sociale che economico per il nostro paese. Un problema tecnico, scusate. Un secondo. Ho molti problemi tecnici. Dicevo, questa riflessione ci ha portato ad inquadrare il fenomeno dell'immigrazione come una vera e propria opportunità per il nostro paese. Purtroppo noi abbiamo cercato di rendere il più possibile, appetibile, diciamo, questa presentazione, però tuttavia è stato impossibile togliere alcuni dati e non dover ricorrere a termini tecnici. Spero quindi comunque di non tediarvi troppo. E la riflessione si snoda lungo quattro tesi principali che adesso brevemente vi presento e che poi andremo a vedere una per una. La prima sostanzialmente è che l'immigrazione favorisce la tenuta del nostro sistema di protezione sociale fondamentalmente perché incide positivamente sul trend demografico del paese rallentando il processo di invecchiamento della popolazione che non interessa solo l'Italia ma un po' tutti i paesi dell'Europa occidentale. La seconda tesi è che il fenomeno migratorio sta favorendo una crescita dell'occupazione femminile delle donne autoctone colmando di fatto la carenza di politiche pubbliche per la famiglia che nel nostro paese sono particolarmente deboli. La terza tesi, connessa ovviamente alle due precedenti, è che l'immigrazione ha effetti positivi sullo sviluppo economico del nostro paese. La quarta e ultima tesi, a differenza delle altre, riguarda un po' il panorama globale e non solo l'Italia. E sostanzialmente è il fatto che l'immigrazione stia attualmente impedendo un ritorno agli equilibri economici precedenti che come sapete erano basati sul dominio mondiale di alcuni stati-nazioni evidenziando di fatto la necessità di sviluppare quello che abbiamo definito un progetto pianeta ma sostanzialmente un modello di sviluppo economico che sia appunto mondiale. Quindi partendo con la prima delle quattro tesi, qui sono costretta un pochino a ripetermi, come vi dicevo, l'immigrazione favorisce la tenuta del nostro sistema di protezione sociale, incidendo su il processo di invecchiamento della popolazione in maniera positiva. Il progressivo invecchiamento della popolazione, come sapete, è dato dalla presenza di due fenomeni, cioè da un lato il fatto che si allunga enormemente, fortunatamente, l'aspettativa di vita, dall'altro il fatto che contemporaneamente si riduce sensibilmente la natalità nel nostro paese, come appunto anche in altri paesi in realtà. Questa duplice tendenza porta sostanzialmente a una grossa contrazione della quota di popolazione attiva, ovvero della quota che lavora e quindi paga le tasse e i contributi, e quindi sostanzialmente vengono a mancare finanziamenti e risorse per le prestazioni di welfare. Dall'altro lato, un aumento della domanda della protezione si registra a fronte del processo di invecchiamento demografico, perché ovviamente più anziani significa intuitivamente più pensioni. Tenete conto che il nostro sistema di protezione, come quello anche degli altri paesi europei, si struttura sostanzialmente nell'arco di un trentennio, che è la fase di massima espansione, tanto che normalmente si parla dell'epoca d'oro del welfare, sostanzialmente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale al primo shock petrolifero degli anni 70. Nel corso di questi tre decenni il radicamento della protezione sociale trae origine, oltre che su un diffuso consenso politico, diciamo, si va a strutturare su un panorama demografico che è sostanzialmente diverso da quello attuale. Noi questo lo possiamo vedere immediatamente se consideriamo questa, che è una piramide demografica che sostanzialmente vuole diciamo, rappresentare graficamente appunto la popolazione di un determinato paese. Qui abbiamo l'Italia nel 1961, considerate che nell'asse verticale si collocano tutte le classi di età, mentre nell'asse orizzontale è distribuita la popolazione a seconda della numerosità. Come vedete, la base della piramide è piuttosto ampia e indica fondamentalmente una popolazione prevalentemente giovane. In particolare qui sono le classi più ampie sono quella dei bambini da 0 ai 4 anni e dai 10 a 14. E mentre invece la punta della piramide tende a essere piuttosto stretta, perché appunto il numero di anziani è sostanzialmente abbastanza limitato. In quest'anno la popolazione con 65 anni e oltre è appena il 9% della popolazione totale. E il panorama cambia completamente. Tra l'altro, tenete conto che qui nel 1961 i tassi di natalità continueranno a crescere in realtà fino al 1965, che è l'anno del cosiddetto baby boom italiano, anno in cui i tassi di natalità arriveranno quasi a 2,7 figli per donna, fino a scendere radicalmente nei 50 anni successivi e ad attestarsi oggi a 1,3. Quindi questo ha fatto sì che nel 2009 noi vediamo un quadro demografico completamente differente, tanto che non si può più neanche parlare di una piramide demografica, per quanto si restringe la base della piramide. La popolazione anziana è cresciuta sensibilmente grazie appunto alla crescita dell'aspettativa di vita, mentre ancora abbiamo una quota di popolazione attiva rilevante, perché ovviamente oggi abbiamo come popolazione attiva quelli che erano i figli del baby boom, ovvero quelli sostanzialmente nati intorno al 1965. E senza l'apporto dell'immigrazione noi potremmo aspettarci che fra circa un ventennio, quando la generazione dei baby boom andrà in pensione, sostanzialmente si potrebbe arrivare quasi a un rovesciamento della piramide demografica, con un ulteriore restringimento della base e un allargamento della punta. E quindi cosa c'entra l'immigrazione? L'immigrazione c'entra sostanzialmente perché, come vedete, questa è la popolazione straniera residente in Italia nel 2009, sostanzialmente dà un grossissimo contributo a mantenere costante la popolazione, considerando poi che si tratta di un fenomeno che ancora è in crescita, può contribuire anche nel futuro a mantenere appunto a sostenere l'andamento demografico del paese. Infatti Come vedete, nel caso degli immigrati c'è una buona natalità, la fascia dei bambini da 0 a 4 anni è significativa. Si tratta praticamente quasi esclusivamente di popolazione attiva, e questo un po' è anche ovvio, perché sappiamo che sono persone che vengono nel nostro paese fondamentalmente per lavorare, e la quota di popolazione anziana è sostanzialmente, direi, poco significativa, almeno attualmente. In cifre, solo per sottolineare ulteriormente il contributo dell'immigrazione, tenete conto che i residenti di cittadinanza italiana, quindi noi italiani, abbiamo in media 44,2 anni, mentre gli stranieri che risiedono in Italia hanno mediamente 31,5 anni, quindi sono molto più giovani. E considerando il numero di figli per donna, appunto, come dicevo prima, le donne italiane hanno in media 1,3 figli ciascuno, mentre gli stranieri ne hanno 2. Tenete conto che in campo demografico è stato stimato che per mantenere costante la popolazione sarebbe necessario un tasso di fecondità pari a 2,1, quindi non è... Quindi si può pensare che grazie al contributo dell'immigrazione l'Italia, almeno nel medio periodo, potrebbe, diciamo, riuscire ad avvicinarsi a questo valore. Considerando invece l'effetto diretto che il fenomeno dell'immigrazione ha sul sistema previdenziale, vediamo alcuni dati che ci vengono da l'INPS. Purtroppo si tratta di dati non particolarmente aggiornati, ma sono gli unici disponibili su questa questione al momento. E questi dati ci dicono che i lavoratori autoctoni che versano contributi all'INPS nel 2004 erano l'8% del totale degli iscritti. Una stima però, venendo più a tempi più recenti, è stata fatta nel 2007, e nel 2007 è stato stimato che senza l'apporto dei lavoratori extracomunitari il gettito contributivo sarebbe stato inferiore del 4%, e quindi nelle casse dell'INPS sarebbero mancati 7 miliardi di euro. Ovviamente è immediatamente evidente che, considerando le caratteristiche del nostro sistema previdenziale, minori contributi implicano deficit previdenziale nel breve termine, con un abbassamento di tutte le pensioni nel lungo termine, che sarebbe a questo punto inevitabile. Da questo punto di vista c'è una fortissima complementarietà tra il benessere dei lavoratori immigrati e lavoratori autoctoni, perché ovviamente l'inserimento del mercato del lavoro regolare degli immigrati comporta dei benefici che appunto non riguardano solo il singolo lavoratore immigrato, ma tutto il sistema di previdenziale italiano. Passando alla seconda tesi, vediamo che, come vi dicevo prima, questa riguarda sostanzialmente il rapporto fra immigrazione e tassi di occupazione femminili riferiti alle donne italiane. Come vi dicevo, il fenomeno migratorio sta favorendo la crescita dell'occupazione delle donne autoctone, colmando la carenza di politiche pubbliche per la famiglia. Politiche pubbliche per la famiglia che sono particolarmente carenti nel nostro paese, e che questa carenza in realtà ha origini storiche ascrivibili al modello italiano di welfare, che è un modello sostanzialmente familista, e che il che significa che ha individuato nella famiglia il luogo ideale di risposta ad alcuni bisogni sociali, in alternativa allo sviluppo di un sistema di servizi pubblici, come si è realizzato invece ad esempio nei paesi del nord Europa. Questo modello di protezione, che appunto ci portiamo dietro da diverso tempo, fa sì che ancora oggi la spesa destinata a misure di sostegno per la famiglia in questa categoria, tenete conto che rientrano servizi ad esempio come gli asili, ma anche vari servizi di assistenza agli anziani, fa sì che l'Italia spenda appena l'1,2% del PIL, contro una media dei paesi europei che spende il 2,1% del proprio PIL per questo tipo di servizio, quindi con un differenziale particolarmente rilevante. Questo fa sì ovviamente che i tassi di occupazione femminile nel nostro paese siano particolarmente bassi. Qui vi ho riportato i dati su alcuni paesi, come, non so se si riescono a leggere le cifre, come la Germania e il Regno Unito, la Francia e vediamo che questi paesi hanno tassi di occupazione femminili molto più alti. Infatti l'Italia vede occupate le donne solo nel 46,4% dei casi, cioè significa che poco meno della metà delle donne italiane è inserita nel mercato del lavoro, mentre abbiamo paesi come la Germania che vede occupate le donne nel 66,2% dei casi, il Regno Unito nel 66% e la Francia nel 60,1%. L'Italia quindi si distanzia dalla media europea, di oltre 12 punti percentuali e il nesso che c'è fra la scarsità di misure alle famiglie e il basso inserimento lavorativo delle donne è ancora più evidente se noi andiamo a considerare il caso delle donne occupate con due figli. In questo caso il differenziale con la media europea arriva a superare i 14 punti percentuali, perché le donne occupate, qui notate che le percentuali sono differenti perché è differente la classe di età delle donne. In Italia le donne con due figli sono occupate il 54,8% delle volte contro una media europea del 69,2%. Come dimostrato da un recente studio, per tornare all'immigrazione, condotto dalla Banca d'Italia e pubblicato nell'ambito del rapporto sulle economie regionali del 2008, la presenza straniera nelle regioni italiane non solo non ha ridotto le opportunità di lavoro per gli italiani, come forse ancora nel pensiero comune è un'opinione abbastanza diffusa, ma anzi ha accresciuto le opportunità di lavoro appunto per le donne italiane, cioè ne ha provocato un aumento di offerta di lavoro delle donne autoctone. Ovviamente la crescita della presenza femminile autoctona nel mercato del lavoro è da attribuire al fatto che i lavoratori immigrati, ma in questo caso più spesso le lavoratrici, aumentano l'offerta di servizi domestici, in particolare nel settore dell'assistenza all'infanzia, dell'assistenza agli anziani, allentando in questo modo i vincoli all'attività lavorativa delle donne italiane all'esterno delle mura domestiche. Ora, tenete conto che altri studi anche in campo, in altri studi ad esempio in Spagna, che anche la Spagna è un paese caratterizzato da una scarsissima, da politiche per la famiglia molto scarse, studi simili hanno evidenziato gli stessi risultati. Ovviamente credo che in qualche modo ci si debba interrogare circa la validità di questa via italiana alla crescita dell'occupazione femminile, nel senso che dal lato siamo ovviamente, per quanto l'effetto sia positivo, dal lato siamo ovviamente di fronte al fatto che le istituzioni pubbliche, diciamo, continuano a essere in qualche modo sorde rispetto alle necessità di politiche di sostegno alla famiglia. E dal punto di vista degli immigrati va sottolineato che molto probabilmente moltissimi immigrati che sono occupati in lavori di questo tipo in realtà sono in possesso di qualifiche superiori rispetto al lavoro che svolgono. Su questo vi segnaliamo un dato, che è il fatto che il 15,4% degli immigrati in Italia svolge una professione dequalificante rispetto a il titolo di studio, mentre per gli italiani questo succede solo il 6,9% delle volte. Quindi gli immigrati in pratica hanno un rischio pari a più del doppio di venire nel nostro paese e svolgere professioni dequalificanti. Ma in realtà quello che ci premeva più di tutto sottolineare in questa sede era come appunto però l'effetto dell'immigrazione si ripercuota sullo sviluppo economico del paese, e su questo mi consente di introdurre la terza tesi, che appunto riguarda il rapporto fra immigrazione e sviluppo economico. E quello che rileviamo è che l'immigrazione ha effetti positivi appunto sullo sviluppo economico del nostro paese, in primo luogo appunto, come ho già detto, perché favorisce la crescita della presenza femminile autoctona nel mercato del lavoro, generando maggiore sviluppo sostanzialmente in due modi: da un lato perché è chiaramente intuibile che le famiglie a doppio reddito hanno maggiori possibilità di consumo, investimento e risparmio, e quindi ovviamente questo è un elemento che facilita lo sviluppo, ma dall'altro forse l'aspetto più interessante è diciamo quello che si può definire l'effetto moltiplicatore dell'occupazione femminile, perché l'occupazione femminile crea a sua volta, favorisce a sua volta la creazione di nuovi posti di lavoro. Infatti le famiglie a doppio reddito consumano certamente più servizi, ovviamente da un lato per una maggiore disponibilità economica, ma in molti casi anche per un minor tempo in qualche modo disponibile. È stato stimato che ogni 100 donne che entrano nel mercato di lavoro si possono creare fino a 15 ulteriori posti di lavoro in settori ad esempio come la ristorazione, la ricreazione, ma anche appunto i servizi per l'infanzia, gli anziani o anche le prestazioni per servizi domestici. Tenete conto poi che questo è particolarmente interessante perché questo tipo di servizi, a differenza di quelli alle imprese, ha il vantaggio di non poter essere trasferito in paesi dove la manodopera costa meno, cioè deve necessariamente essere prodotto laddove si genera la domanda, e questo in qualche modo mette un po' in crisi, diciamo, un'idea spesso diffusa, perché ci dimostra che la presenza degli immigrati può essere, diciamo, può avere un effetto di beneficio diretto rispetto alle comunità locali che li ospitano. Inoltre l'immigrazione da questo punto di vista può certamente favorire la rottura di quel circolo vizioso per il quale la scarsità di servizi è collegata alla bassa partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, che in realtà è a sua volta collegata alla scarsità dei servizi. E, in secondo luogo, l'immigrazione favorisce lo sviluppo economico sostanzialmente perché favorisce il contenimento dell'incidenza del debito pubblico sul PIL. Abbiamo visto che l'apporto degli immigrati alla tenuta del nostro sistema previdenziale è sostanzialmente significativo, e quindi gli immigrati contribuiscono in qualche modo alla riduzione del debito previdenziale. Allo stesso tempo abbiamo detto che si tratta di quota di popolazione attiva che viene nel nostro paese sostanzialmente per lavorare, e per effetto dello sviluppo gli immigrati contribuiscono chiaramente alla crescita del PIL. Si pensi che attualmente quasi il 10% del nostro PIL è prodotto dalla presenza di manodopera immigrata. E, infine, il terzo elemento riguarda il fatto che l'immigrazione aumenta la competitività delle imprese italiane e favorisce le esportazioni. Questo è vero in primo luogo perché l'immigrazione favorisce processi di moderazione salariale che incidono chiaramente sulla competitività. Ma in secondo luogo, è forse l'aspetto che in realtà è più interessante, possiamo aspettarci che l'immigrazione possa favorire processi di innovazione produttiva, nel senso che un immigrato inserito in un'impresa nella produzione, non so, in qualsiasi settore, come può essere il design, l'abbigliamento, ma insomma si potrebbero riportare molti esempi, possiamo aspettarci che favorisca diciamo in qualche modo processi di contaminazione degli stili di vita, culturali, insomma, e via dicendo, tali da favorire l'immissione sul mercato di prodotti che possano in qualche modo essere appetibili anche nei paesi di origine degli immigrati, in questo modo dando un contributo all'export italiano. Ora andiamo invece sull'ultima tesi, che è un po' differente dalle altre proprio perché appunto ci costringe a riflettere sul rapporto fra immigrazione e globalizzazione in qualche modo, anche se in realtà siamo più concentrati in questo caso sulle emergenze globali. Come dicevo prima, l'immigrazione impedisce un ritorno agli equilibri economici precedenti che erano basati sul dominio mondiale di alcuni stati-nazioni. Viene in primo piano la necessità di sviluppare ora un modello economico che sia appunto mondiale e sovranazionale e non appunto confinato all'interno di ciascun paese. Emerge in primo piano questa necessità perché sono in atto in questa fase storica processi che stanno demolendo i due pilastri su cui si è retto lo sviluppo economico di matrice nord e occidentale, che sono da un lato l'uso da parte di un numero limitato di paesi di risorse energetiche scarse. Sappiamo infatti che l'enorme produttività delle economie avanzata è dovuta in gran parte allo sfruttamento intensivo di fonti energetiche non rinnovabili a beneficio praticamente esclusivo di un numero limitato di paesi. Il secondo pilastro che diciamo è in qualche modo destabilizzato in questa fase riguarda l'equilibrio fra risparmi e investimenti ad alti tassi di occupazione. Si tratta di due grandezze che si devono sostanzialmente pareggiare per evitare il caos produttivo, e questo equilibrio fino adesso è stato preservato con grossissima difficoltà attraverso il ricorso a politiche nazionali, come ad esempio le politiche di tutela del lavoro e del salario, ma anche le politiche di welfare e le regolazioni monetarie. Ora, l'irrompere di paesi a sviluppo intensivo come la Cina, ma anche la presenza stessa dell'immigrazione, stanno scardinando entrambi questi pilastri. Il primo pilastro è scardinato perché le risorse energetiche sono oggi consumate da tutti, nel senso che la Cina è chiaro che contribuisce in misura non irrilevante alla loro spartizione, e l'immigrazione indirettamente, grazie al contributo che offre alla tenuta dell'economia occidentale, chiaramente ne alimenta la domanda. Il secondo pilastro viene invece scardinato perché il bilanciamento mondiale tra risparmi e investimenti viene a rompersi sul fronte del risparmio. Il risparmio sostanzialmente cresce troppo per l'eccessivo incremento dei profitti, che si generano appunto, come potete vedere, super profitti che generano eccessivi risparmi, che sono causate dal contenimento delle retribuzioni operaie e impiegatizie sia nelle imprese dei paesi emergenti, dove i salari tendono ad essere di mera sussistenza, sia nelle imprese che ricorrono nell'area occidentale a manodopera immigrata per effetto dei processi di moderazione salariale. In questo quadro l'idea è che in assenza appunto di quello che prima abbiamo visto, abbiamo chiamato un progetto pianeta largamente condiviso, non si possono escludere passaggi storici sostanzialmente implosivi con effetti diciamo importanti sia dal punto di vista economico che occupazionale. Per evitare il rischio di passaggi appunto implosivi, ci sono alcune questioni che dovrebbero essere affrontate. Da un lato, la prima di esse è il ricorso a nuove politiche energetiche. Attualmente molteplici fenomeni, come ovviamente, come ad esempio si può pensare alle impennate del prezzo del petrolio e del metano, ma anche ai più recenti disastri ambientali, mostrano che la fine di un'epoca si sta avvicinando forse molto più rapidamente di quello che si credeva anche solo fino a pochissimi anni fa. I rischi sono evidenti, sono sotto gli occhi di tutti, però nonostante questo purtroppo adeguate contromisure, come potrebbero essere ad esempio il ricorso massiccio alle energie rinnovabili, tardano sostanzialmente a prendere corpo. In secondo luogo occorre, come abbiamo visto, invertire, in parte abbiamo visto, l'attuale trend che registra una sovrabbondanza di risparmi dovuta all'abnorme crescita dei profitti, ricorrendo ad esempio, qui le soluzioni possono essere molteplici, ma ad esempio si potrebbe ricorrere a una più alta tassazione sui profitti, dei profitti, degli interessi e dei super redditi dirigenziali. Infine sono necessari interventi di coordinamento strutturale, perché è arrivato il momento che i problemi siano diciamo appunto inquadrati ricorrendo a forme di coordinamento mondiale, proprio perché appunto le interdipendenze globali crescono e è necessario appunto adottare misure condivise su scala mondiale, ad esempio in questioni strategiche come potrebbe essere l'emergenza climatica. Ora, cosa c'entra questo con l'immigrazione? Questo c'entra con l'immigrazione perché una caratteristica di queste tre questioni è che esse possono più facilmente entrare nell'agenda politica internazionale grazie a, appunto al fenomeno migratorio. L'immigrazione infatti nelle sue forme nelle sue forme attuali, rompe il privilegio di un uso delle risorse, di un uso delle risorse da parte di pochi. Questo perché sostanzialmente, per il semplice fatto che l'immigrazione esiste, quindi che ci sono persone che si spostano e arrivano nei paesi dell'area occidentale, ci costringe di fatto a prendere atto che nell'uso delle risorse non si potrà mai realizzare un ricorso al passato. In secondo luogo, l'immigrazione pone le premesse per un mutamento della distribuzione dei redditi con interventi di carattere sovranazionale, cioè costringe appunto in qualche modo a ricercare l'equilibrio risparmio investimenti ad alti livelli di occupazione, che è assolutamente necessario per la tenuta di un sistema economico, appunto su scala sovranazionale, non più ricorrendo a politiche nazionali che sempre più difficilmente oggi sono sostenibili. Infine, rispetto alla questione degli interventi di coordinamento strutturale, l'immigrazione, essendo il riflesso di squilibri strutturali nell'uso del territorio planetario, richiede che ogni Stato-nazione si trasformi in un buon amministratore sulla propria porzione del territorio planetario di decisioni che in realtà sono prese a livello globale. E qui, avviandomi alle conclusioni, direi che l'Italia ha ovviamente il massimo interesse al decollo di questa impostazione, perché rischia in alternativa di continuare a essere schiacciata in qualche modo dal suo posizionamento di periferia europeo. Qui sto parlando, il riferimento è fondamentalmente in qualche modo geografico, con il sud che è ancora tagliato fuori da qualsiasi prospettiva di crescita, mentre in qualche modo potremmo immaginarsi ad esempio un futuro diverso per il sud se l'Africa, in particolare quella del nord, assumesse un ruolo differente all'interno dell'economia mondiale. Purtroppo però in Italia, come in molti altri paesi occidentali, ci si muove ancora in un'ottica limitata e avendo soprattutto a riferimento il proprio territorio, quindi i confini nazionali, però crediamo che tale orizzonte vada superato, anche perché al passato è impossibile tornare e questo ogni giorno l'immigrazione ce lo ricorda. Finito. Ringraziamo innanzitutto la relatrice, la dottoressa Chiara Agostini, e il professor Longobardi e il professor Vitaletti, sperando poi di poter rivolgere loro delle domande. Da loro è stata un'analisi, credo, importante e che merita poi anche più tardi una discussione. E a questo punto era prevista una staffetta, non so se con Davide Armando, che prepara così un altro tavolo. No, farai... Intanto approfitto per ringraziare molto David, che è un amico, ma anche qui in rappresentanza del CNR, possiamo una parte, del CNR. E lascio a te la parola per preparare il nuovo tavolo, oppure per decidere. Vai. Vogliamo dire. Vabbè, tanto è tutto quanto, sono saltati tutti i piani. Io direi di, insomma, vorrei un po' di compagnia, quindi sì, magari allora chiederei intanto alla dottoressa Annelore Homberg di raggiungerci. Qui. Al collega giornalista di Rai Sport Gigi Cavone. Giuseppe Bea in rappresentanza del CNA. Grazie. Allora, grazie Pino, sono molto contento ovviamente di essere qui. E, dicevo, sono saltati un po' tutti, un po' i tempi, e allo stesso tempo mi sembra alcuni relatori non saranno presenti, in particolare so che Francesco Dall'Olio purtroppo non è potuto venire, e credo anche Ernesto Ruffini altri verranno più tardi, quindi Ernesto Ruffini e Shukri Said si uniranno dopo. Io direi comunque c'è già moltissima carne al fuoco, e quindi direi che cercheremo di contenerci nei tempi più in tempi rapidi, perché sarebbe importante, credo, lasciare dello spazio alla fine per il dibattito. Quindi, diciamo, nell'aprire questa seconda sessione della giornata di oggi sull'arte dell'immigrazione e la logica del respingimento, io invito tutti voi a mantenervi nei limiti che ci siamo prefissati. Io cercherò di ricordarveli, non me ne vorrete. E io inizio a tagliare i tempi a me stesso e veramente dirò soltanto due parole, un po' per un dovere di tipo istituzionale, cioè per giustificare il fatto che io sia qui, oltre che ovviamente a titolo personale, anche in rappresentanza dell'Istituto per la Storia del Pensiero Scientifico, del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno del CNR. Che cosa c'entra? C'entra perché l'Istituto a cui io appartengo, come una buona parte dei pochi istituti umanistici del CNR, fa parte di un dipartimento che il cui nome è, e qui già andiamo su parole che stanno nel nostro programma, è identità culturale. Il nucleo degli istituti umanistici del CNR fanno parte di un dipartimento che si chiama identità culturale, quindi ecco già che ricorre questa parola, che è una parola complessa, perché è un termine, come dire, che può dividere se viene intesa come identità di appartenenza e quindi come identità contrapposta ad altre identità, può unire nella misura in cui invece al di là e senza prescindere dalle differenziazioni culturali, storiche, eccetera, eccetera, comunque si va a riconoscere una fondamentale identità umana che pone diciamo, al di là di tutto una dimensione di fondo di uguaglianza. Ma andando ancora più avanti, una delle linee di ricerca fondamentali di questo dipartimento identità culturale, questa è una cosa che forse non tutti sanno, ha come titolo appunto è il cosiddetto progetto migrazioni. Quindi una buona parte, più di metà degli istituti che afferiscono a questo dipartimento sono impegnati, ognuno secondo la sua vocazione, quindi alcuni in una prospettiva più centrata sul presente, demografica, economica, giuridica, quindi legata ai temi di cui abbiamo sentito parlare e di cui parleremo in seguito, appunto si interessano delle migrazioni nel Mediterraneo, ma non solo, da questi punti di vista. Altri, come il mio istituto, se ne occupano da un punto di vista in qualche modo più generale, più culturale, storico, filosofico, linguistico anche. Recentemente, nel giugno scorso, l'Istituto per la Storia delle Società del Mediterraneo, ad esempio, ha organizzato un convegno che si intitolava Le migrazioni nel Mediterraneo, storia, economia e linguaggi. Molti miei colleghi filosofi, viceversa, si interessano di un tema che potrebbe sembrare abbastanza lontano, cioè del del ruolo del tema delle migrazioni dei popoli nel pensiero di Vico, che è un tema su cui ovviamente adesso non rubo la vostra attenzione, però è un tema interessante, ad esempio per il fatto che Vico dà un ruolo importante e, come dire, universale, non residuale né negativo al tema delle migrazioni, legandolo in qualche modo al conflitto sociale. Al conflitto sociale, perché lui dice in uno dei suoi assiomi: gli uomini non si muovono non abbandonano la terra in cui sono nati se non sono spinti da una esigenza che riguarda la loro stessa sopravvivenza. E quindi c'è adesso è tutto più complicato, ma c'è questa visione della migrazione come qualcosa allo stesso tempo di legato al conflitto sociale, ma allo stesso tempo come qualcosa di non negativo, come di qualcosa che ha a che fare con lo sviluppo della civiltà. Lo statuto del tema della migrazione, però, e qui veramente ancora un minuto e poi cedo la parola ai colleghi, nella cultura italiana non è sempre stato uno statuto positivo, anzi è stato uno statuto ambiguo, se non per certi versi negativo. E in questo, anche se di questi tempi è un po' difficile, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, porre dei problemi legati alla cultura del Risorgimento, però in qualche modo una certa parte della cultura del Risorgimento, nel senso dell'individuazione, dell'affermazione di una identità nazionale italiana contrapposta ad altri popoli ad altre nazioni che erano popoli e nazioni che si erano affacciati in qualche modo da conquistatori sul territorio italiano, ha contribuito in qualche modo, io credo, a una connotazione negativa di questo genere, ed ha anche portato a sviluppare alcuni stereotipi che si ritrovano ancora oggi. Uno fra tutti, l'idea dello straniero che attenta all'onore delle donne italiane, i vespri siciliani, no? Ecco. Però allo stesso tempo questo statuto ambiguo del tema delle migrazioni è qualcosa che risale più indietro nella cultura italiana, risale in qualche modo, comunque lo possiamo ritrovare in quello che è il mito di fondazione, almeno dall'epoca imperiale in poi, dall'inizio dell'epoca imperiale in poi, di Roma. Enea in fondo è un migrante che fugge da una guerra. Il suo arrivo sul territorio, sulle coste del Tirreno, è da un lato ovviamente per Virgilio un arrivo provvidenziale, perché darà vita alla civiltà romana. Dal punto di vista delle popolazioni preesistenti, delle popolazioni d'origine, è però viceversa qualcosa di devastante. Quindi un'ambiguità, di questo tema della migrazione, che di cui forse è difficile, da un lato è difficile dire se e quanto abbia una ricaduta sulla politica attuale. Non so quanti dei nostri politici abbiano letto l'Eneide o ancor meno i Vespri siciliani, però ecco, all'interno di un fenomeno che, come abbiamo visto prima, è evidentemente un fenomeno globale, così come è globale il senso di purtroppo l'atteggiamento di diffidenza, di respingimento nei confronti dei migranti. Abbiamo visto appena adesso, appunto, c'era riferimento alla situazione francese, ad esempio, però ecco, una cosa su cui forse si potrebbe riflettere è se ci sia nella cultura italiana anche in qualche modo una specificità di questo tema. Chiudo qui, abbiamo fatto un attimo questo un piccolo intermezzo filosofico, torniamo invece adesso veramente alla concretezza e alla realtà. Direi che manteniamo un po' l'ordine che qui ci eravamo dati, quindi Pino fra l'altro mi ha risparmiato il compito di presentare i relatori perché l'ha già fatto, e quindi passo direttamente senz'altro la parola a Gigi Gavone, pregando di stare nei tempi. Grazie. Ma, io sento per certi versi un po' l'inadeguatezza, che spesso è un complesso di inferiorità di chi si occupa di sport, nel senso che di fronte ai dati, allo spessore scientifico della relazione della dottoressa Agostini che abbiamo sentito prima, anche rispetto ad alcune importanti e profonde riflessioni, insomma non voglio mettere le mani avanti, ma però lo sport può dare, ovviamente, come in molti altri ambiti di discussione, degli spunti, e in fondo quello che sembra un gioco e che poi dovrebbe alla fine essere, come spesse volte si dice, paradossalmente diventa una cosa più seria, il gioco diventa una cosa serissima anche, perché no, nel provare a accogliere qualcuna di queste suggestioni. E allora, così, raccogliendo un po' gli spunti, anche scavando un po' nella mia memoria, non avendo né il desiderio né lo spessore né l'autorevolezza per poter così immaginare il telaio di una relazione in termini ortodossi, ho provato a estrapolare qualche storia, qualche racconto che forse può essere appunto più significativo di mille altri concetti, partendo da un assunto sul quale credo siamo tutti d'accordo, cioè che lo sport è per eccellenza un territorio di confronto, di integrazione, di accoglimento e di gioco di squadra. Parliamo almeno degli sport di squadra, che forse esprimono meglio e rappresentano meglio questo concetto, almeno dovrebbe esserlo, e poi purtroppo in alcune sue derive non sempre è così. Nella metafora tipica di una gara, cos'è una squadra se non una piccola cellula di socialità nella quale valgono regole, qualche gerarchia, e c'è una mission, un obiettivo da perseguire, un percorso da fare. In quella cellula di socialità ci si accetta tutti come dei pari grado, anzi, se vogliamo un attimo scavare nella storia recente riferita al calcio in Italia, quando furono abbattute le frontiere circa 25 anni fa e fu quindi abbattuta quella sorta di protezionismo che privilegiava la presenza di soli calciatori italiani nel massimo campionato, l'oriundo, lo straniero era anzi il valore aggiunto, era in qualche modo, o si cercava di fare in modo che fosse la punta di diamante della squadra. E in verità, a livello di sport professionistico, di top players, parlare di integrazione anche sociale, che parte dal fatto sportivo ma poi diventa appunto l'arrivo di un ragazzo straniero in Italia e il suo inserimento nel tessuto che lo circonda, può sembrare anomalo, perché piaccia o non piaccia, a noi può non piacere, ma il denaro fa la differenza, c'è poco da fare, non farà la felicità ma fa certamente molte differenze. E quindi lo straniero, magari l'africano, che arriva in Italia molto più fortunato di altri suoi concittadini, con contratti milionari oggi, miliardari prima, quando parlavamo in lire, è evidente che ha una maggiore possibilità da mille punti di vista di una interazione, di una integrazione più facile, si colloca in una fascia anche vitale, esistenziale, sociale alta, si circonda di grandi case, di grandi macchine, eccetera eccetera, e probabilmente non ha, ma in qualche caso sì, qualcuno di quei tratti emergenziali di cui forse ci piacerebbe di più parlare. Don King, il famoso impresario di pugilato, che forse molti di voi ricorderanno, quel signore ovviamente nero con i capelli un po' alla Napo Orso Capo ritti sulla testa, amava dire spesso una battuta che lo riguardava personalmente, diceva: rare volte ho visto razzismo nei confronti di un nero ricco come me, e questo qualcosa vorrà pure dire. E dove lo sport fa i conti con i concetti dell'accoglimento e spesso, ai noi, del respingimento? Nel terreno del tifo, e qui io faccio solo un accenno breve perché non voglio, Davide lo sa, ne abbiamo parlato anche, non voglio andare fuori tema, fuori traccia, perché quando parliamo del tifo nella sua deriva peggiore, come purtroppo in Italia siamo abituati a vedere, lì non parliamo più di accoglimento, integrazione di neri, bianchi, stranieri o italiani, parliamo di concetti di non accettazione dell'alterità, di non accettazione della cultura della sconfitta, di non accettazione del diverso in quanto tale. E allora l'avversario è per natura un diverso, perché ha un diverso colore di maglia, perché ha una diversa provenienza geografica, perché ci sono questioni di campanile, perché addirittura nelle declinazioni più aberranti di questa interpretazione si sfocia in discorsi di politica o pseudopolitica. Chi segue il calcio magari da appassionato saprà che ci sono notoriamente squadre e tifoserie bollate come squadre e tifoserie di destra, squadre e tifoserie di sinistra, per cui alcune partite, come le autorità di pubblica sicurezza ci ricordano ogni anno, vengono seguite e bollate come partite a rischio semplicemente perché c'è questo confronto. Lazio-Livorno tradizionalmente è una partita che mette di fronte una tifoseria tradizionalmente di destra, cioè la Lazio, e una tifoseria tradizionalmente comunista, per usare un nome un po' desueto, come la tifoseria del Livorno. E quindi lì, ecco, lì sfociamo in ambiti in cui le integrazioni e gli accoglimenti sono interpretati nella peggiore delle maniere, in maniera becera, ma in questo caso allora la diversità e il confronto portano a una cultura, ma sarebbe meglio dire a una incultura che rivela tratti addirittura paradossali. Tanti anni fa, io sono di Bari e quindi ho sempre seguito con affetto e con passione le vicende della squadra di calcio della mia città, un giocatore che militava nel Bari, che si chiama Brambati e che era nato al nord, mi diceva: io ero tendenzialmente da adolescente un po' razzista, non riuscivo a legare molto con i ragazzi del sud, con gli stranieri ancora peggio, e ho cambiato radicalmente idea da quando gioco nel Bari e negli stadi del nord ogni domenica mi sento chiamare Terrone, io che sono nato a Cremona. E questo dice, nella, se vogliamo, anche nella risibilità della vicenda, di quanto in effetti poi questi discorsi vengano declinati poi dal punto di vista sportivo in maniera diversa. E allora l'arte dell'integrazione nello sport diventa, insomma, un ricamo complesso di situazioni che partono dal campo e dall'evento meramente sportivo, ma poi sfociano nella socialità, nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni di tanti ragazzi che per ragioni sportive vengono ingaggiati e quindi arrivano in Italia a fare un'esperienza di tipo professionale, ma poi fanno i conti anche con tutto il resto che li circonda. E dicevo, allora, qualche storia tracciata veramente in modo telegrafico, così Davide non mi frusta e stiamo nei tempi. Dicevo dei ricchi che però in qualche caso non sfuggono al problema che avvertono sulla loro pelle della diversità e di un difficile accoglimento. Samuel Eto'o, camerunense, oggi centravanti dell'Inter, quando arrivò una decina d'anni fa in Europa e andò a giocare in Spagna, nel Barcellona, in una delle sue prime interviste disse: so che dovrò lavorare come un nero per provare a vivere come un bianco. Avvertiva sulla sua pelle quali sarebbero stati alcuni dei problemi ai quali sarebbe andato incontro nonostante i suoi assegni con tanti zeri. In una famosa partita, famosa per chi segue lo sport, contro il Saragozza, dopo essere stato insultato per un'ora circa dai tifosi della squadra avversaria con i versi di una scimmia, lui segnò un gol e mimò i gesti di una scimmia, i gesti di un primate. La cosa bella fu che lo raggiunse vicino al bordo campo dove lui festeggiava un compagno di squadra, bianco, portoghese, di nome Deco, e anche lui mimò i gesti di questa scimmia, con un senso forse banale, forse plateale, forse discutibile, ma certamente significativo di solidarietà, che significava forse per Samuel Eto'o in quel momento la manifestazione di un'accoglienza, di una vicinanza forse più importante di mille parole. Un altro ragazzo che si chiama, è un contemporaneo, Ugwe Ninnaya, che era un nigeriano, diventò famoso in una partita, quella partita in cui anche Antonio Cassano segnò il suo primo famoso gol contro l'Inter, quella partita che il Bari vinse per 2-1, passò alla storia, almeno per i baresi, anche perché segnò questo ragazzo, e fu divertente divertente fino a un certo punto, fu insomma significativo nelle interviste del dopogara scoprire che quel ragazzo si stava adattando con tanta fatica alla vita italiana, aveva 18 anni ed era arrivato in Italia da un piccolissimo villaggio della Nigeria, che confessò ai giornalisti che non si era ancora abituato a dormire su un letto normale, alto rispetto al pavimento, perché lui nel suo villaggio dormiva su un giaciglio per terra, e puntualmente quando arrivava negli alberghi con il Bari per le partite che poi era chiamato a disputare, prendeva il materasso, lo metteva per terra e ci si buttava sopra per dormire. Anche questo può sembrare divertente, ma forse è la spia appunto di tante situazioni. E poi parlavamo anche prima con l'assessore Di Veroli, per esempio, del Ramadan. L'anno scorso, per 2 o 3 giorni, sui giornali sportivi si parlò delle difficoltà di un altro giocatore dell'Inter, Muntari, ghanese, di religione musulmana, che fu sostituito durante una partita, e si scoprì che era fuori forma, che non riusciva a reggere in quelle settimane gli allenamenti perché era in pieno Ramadan. Un suo collega ghanese che gioca a Belgrado aveva addirittura avuto una particolare dispensa dal mufti di Belgrado, al quale si era rivolta la squadra, il club della Stella Rossa, e che gli aveva detto che poteva mangiare lì dove il digiuno derivante dal Ramadan avesse provocato qualche disfunzione di tipo fisico, atletica. E poi l'integrazione in qualche caso diventa difficile non tanto da avversari quanto da compagni di squadra. Il caso forse più emblematico successe alcuni anni fa. Hakem Omolade si chiama questo giocatore nigeriano, giocava con il Treviso gioca a Terni contro la Ternana, e quando l'allenatore del Treviso schiera questo ragazzo in squadra, i tifosi del Treviso, quindi i suoi tifosi, lasciano le gradinate per protesta, per una forma evidentemente di respingimento, di razzismo di questo ragazzo. La settimana dopo, nella partita che il Treviso gioca in casa contro il Genoa, il colpo di scena: tutti i compagni di squadra di Omolade si presentano sul campo con il viso dipinto di nero, con la cera delle scarpe. Giocando tutta la partita in quel modo, Omolade entra in campo nel secondo tempo e segna un gol decisivo per vincere quella partita, forse davvero uno dei gol più belli per i tanti significati che ha rappresentato e che si possano raccontare. Ci sono stati casi di giocatori ebrei rifiutati dalle tifoserie, uno dalla Lazio, un altro che si chiama Ronny Rosenthal qualche anno fa dall'Udinese, fece le visite mediche con l'Udinese, alcune scritte sui muri della città antisemite fecero capire che questo giocatore non era gradito, di fatto l'Udinese non lo ingaggiò più. L'ultimo riferimento che faccio di 30 secondi è il Sudafrica. Io ho avuto la fortuna e il piacere di passarci un mese per i mondiali qualche mese fa, al di là delle vicende dell'Italia è stato un mese abbastanza indimenticabile. Beh, lo sport che abbiamo in qualche modo rivissuto in questo mese, rievocato, lo sport del Sudafrica, racconta in maniera pregnante forse la storia dell'integrazione e dell'accoglimento. Lì dove l'apartheid definiva alcuni sport di derivazione anglosassone come il cricket, il polo e il rugby completamente bianchi, praticati da bianchi, mentre il calcio era lo sport povero dei neri. Negli ultimi 15 anni, grazie al cielo, nella nazionale di calcio del Sudafrica ci sono alcuni bianchi, nella nazionale di rugby del Sudafrica ci sono alcuni neri, addirittura con un allenatore nero, cosa che sarebbe stata impensabile fino a una ventina d'anni fa. Insomma, magari poi riprendiamo ancora con altri spunti, ma lo sport racconta che ovviamente l'arte, quella che abbiamo chiamato nel titolo di questa chiacchierata l'arte dell'integrazione, e la logica, ma mi piacerebbe dire l'illogica del respingimento, hanno ancora tanta strada da fare. Il concetto che sia Pino sia l'assessore Di Veroli hanno ricordato prima aveva attraversato anche me in questi giorni, e l'emergenza può diventare un'emersione, e allora questo forse è l'augurio sportivo che la seconda edizione di questa iniziativa, visto che Pino ne ha parlato di questa settimana come di una prima edizione, possa intitolarsi, perché no, Emersioni di identità. Sarebbe un piccolo grande passo in avanti. Grazie. Grazie a Gigi, non solo perché Bari a suo tempo è stata una città che ha accolto me come migrante part-time, ma anche perché direi che ci ha fatto vedere come in un campo in cui sembrerebbe esserci soltanto, diciamo, il respingimento, il razzismo, in realtà anche l'integrazione sia un'arte difficile, ma un'arte perseguibile. E do subito la parola a Giuseppe Bea, che è responsabile nazionale del settore immigrazione dell'EPASA, che è il patronato per l'assistenza sociale agli artigiani del CNA. Buonasera. Ho ascoltato con molta attenzione i vostri interventi e in qualche modo, mentre ascoltavo, mi ponevo un problema, visto il tema dell'integrazione e del respingimento, rispetto a quanto tutto il movimento migratorio, che in più di un secolo ormai si è svolto all'interno del nostro globo, ha creato tante e tantissime situazioni di differenziazione, di intolleranza, di non accettazione, di respingimento. Credo che nella storia delle migrazioni è insita la logica del rifiuto. Non credo che ci sia nessuna comunità migrante, grande o piccola. L'Italia, per esempio, è stato un paese che ancora detiene, se possiamo parlare di record, visto che abbiamo parlato di sport, il record mondiale per la migrazione, perché noi in un secolo, dal 1870 al 1970, abbiamo fatto immigrare circa 30 milioni di nostri concittadini. E quindi non c'è nessun paese, nessun angolo appunto della terra che accolga lo straniero con grande apertura e disponibilità. La storia è questa, che ci piaccia o non ci piaccia. Io vengo recentemente da un viaggio di studi a Costa Rica, nel Capo Verde, che è un paese, un arcipelago africano poverissimo, in effetti, che vive unicamente di rimesse dei propri emigranti e di cooperazione internazionale. Beh, in questo paese hanno, per esempio, una forma di razzismo feroce nei confronti, per esempio, dei nigeriani. C'è un respingimento nei confronti di questa popolazione che raggiunge degli aspetti veramente psicologici. Nella nostra delegazione c'era un nigeriano, cittadino italiano, che ovviamente è stato bloccato all'aeroporto per il solo fatto che aveva sbagliato di tirare fuori il passaporto, invece quello italiano ha tirato fuori quello nigeriano. Ed è stato bloccato e messo, diciamo, in guardina a malo modo, per dire, cioè, questa questione noi dovremmo affrontarla tenendo conto che si costruisce l'integrazione attraverso le politiche, ma attraverso soprattutto la cultura. Cioè, un paese che è capace di elevare la propria cultura, quindi il proprio grado di accettazione dello straniero dal punto di vista appunto culturale, oltre che economico e sociale, è un paese ovviamente che si pone all'avanguardia dei sistemi di integrazione. È qualcosa che ha fatto, per esempio, ultimamente la Germania. A proposito di calcio, abbiamo visto che la nazionale tedesca ha rappresentato uno degli esempi più alti di integrazione, avendo la metà dei propri giocatori tutti quanti di origine straniera. E la Germania è stato un paese che aveva sino a 10 anni fa una politica verso gli stranieri di respingimento totale. Se ricordate il termine di Gastarbeiter, cioè il lavoratore ospite, che veniva soprattutto appiccicato ai nostri immigranti, nascondeva un concetto che era molto semplice: il lavoratore straniero è ospite, viene, lavora e se ne va. Quindi questa era la Germania. In questi ultimi 10 anni ha fatto un cambio di politiche, che è stato in un modo eccezionale, ed ha implementato la propria capacità di integrazione a tutti quanti i livelli, con risultati anche molto molto importanti. Tenete presente che in Germania ci sono oltre 9 milioni di stranieri, di cui 1,5 milioni sono turchi, i quali però stanno rappresentando una delle comunità più integrate e più, diciamo, che velocemente stanno salendo nei gradini appunto della società tedesca. Tutto questo appunto per dire che le politiche per l'integrazione sono un po' la spina del fianco del nostro paese. Questo è il problema di fondo. Ci sono molti annunci, ci sono molte norme che vengono varate, molte leggi, alcune anche, diciamo, hanno anche una loro logica, ma tutto viene fatto in un modo molto caotico, molto confusionario. E al fondo comunque c'è questa cultura che purtroppo è oggi rappresentata anche in termini politici di non accettazione dello straniero. Noi come organizzazione, come Confederazione dell'Artigianato e delle Piccole Imprese, nelle nostre politiche per le imprese abbiamo ad un certo punto, per esempio, scoperto che un grande veicolo di integrazione è fare impresa, è costruire una piccola impresa, che è un grosso elemento di integrazione sociale. Oggi in Italia, e questo è un dato su cui bisogna riflettere, ci sono oltre 200.000 imprese di cittadini stranieri, cioè con cittadinanza straniera, che operano essenzialmente nel campo dell'artigianato e del commercio. Il 50% sono imprese artigiane e il resto nel commercio, che è un grande elemento, oltre che economico, perché ovviamente queste 200.000 imprese danno anche lavoro italiano, agli italiani, non ci sono dati, abbiamo stimato che comunque oltre 200.000 nostri concittadini lavorano in imprese gestite da stranieri, oltre appunto ai circa 300.000 soci e coadiuvanti delle imprese. Quindi abbiamo un mondo di oltre 1 milione di persone che ruotano attorno al sistema delle piccole imprese di immigrati, che vanno anche in questo caso, per esempio, molto spesso, come nel caso dell'artigianato, a sostituire quelle professioni, quelle attività e quei mestieri che i giovani italiani non vogliono fare. Un po' lo stesso discorso che avviene nel campo del lavoro dipendente, con tutti i problemi legati anche alla crisi, ma anche nelle imprese, nel mondo delle imprese artigiane succede la stessa cosa. I genitori artigiani, che magari negli anni hanno costruito anche delle imprese solide, per il fatto che nel nostro paese il raggiungimento della laurea è anche un fatto di status sociale, l'artigiano, per affrancarsi dal proprio stato di lavoratore manuale, quindi in qualche modo ai gradini ultimi della società così simbolica nazionale, faceva studiare i propri figli fino alla laurea. Ovviamente il figlio laureato non vuol certo fare il falegname, l'idraulico. Io ho conosciuto un falegname qui romano, bravissimo, un artista, lavoro non sapeva neanche dove metterlo, con due figli, un maschio e una femmina, tutti e due laureati, nessuno dei due ovviamente voleva intraprendere l'attività del padre, e questo padre, disperato, perché capiva a un certo punto che forse la sua attività sarebbe stata quella che avrebbe dato il futuro ai propri figli, ha dovuto alla fine, assumendo un extracomunitario, e alla fine gli ha ceduto l'impresa. Questo è un... E sempre tornando invece alle questioni dell'arte di integrazione, certo, noi poi assistiamo anche a episodi che nascono dalla disponibilità anche dei singoli ad entrare in rapporto con lo straniero, se il rapporto spesso è di natura economica. Cito un altro esempio, così abbiamo un nostro associato romano che è una importante carrozzeria qui a Roma, è di origine marocchina, il titolare marocchino, e ha 15 dipendenti, quasi tutti italiani. Noi una volta abbiamo fatto così un giro, gli abbiamo fatto un'intervista, era un periodo anche un po' critico per quanto riguardava gli attentati islamici, c'era un po' di situazione, e noi intervistammo questi dipendenti, tutti romani ovviamente, i quali ci dissero con molta franchezza che non gliene fregava niente, insomma, che questo fosse musulmano, l'importante è che tutti i mesi pagava regolarmente lo stipendio. Quindi in questo sistema, in queste culture che si incontrano, in cui assistiamo anche a disponibilità. È vero però che, quanto afferma Bauman, che in effetti la paura dello straniero oggi, visto che viviamo in una società in cui non ha più le paure definite, non c'è più una paura definita, ma sono tutte situazioni aspecifiche, è ovvio che in qualche modo l'ansia di vivere, le difficoltà, vengono tutte quante in qualche modo incanalate contro il nemico che viene identificato, perché è facilmente identificabile dal colore, dalla pelle, dalla lingua, e che è lo straniero. E questo è un dato di fatto, ma questo dato di fatto va sconfitto con politiche adeguate. E questo è il problema e la difficoltà del nostro paese. Noi vediamo la politica che è stata attuata per esempio adesso per il respingimento, che è qualcosa che grida vendetta, perché è contrario anche alla nostra stessa Costituzione. Anche la nostra Costituzione pone dei limiti ben precisi a queste azioni di respingimento, le colloca tutte quante, per esempio, eventualmente in acque internazionali, mentre gli ultimi fatti drammatici sono respingimenti che vengono fatti nelle acque territoriali, e in più altre norme costituzionali impongono per esempio il controllo per lo status dello straniero, e ovvio non possono essere respinti i minori, le donne incinte e quant'altro. E questo è previsto anche dagli accordi internazionali su cui lo Stato dovrebbe esercitare un controllo e quindi salvaguardare, per esempio, queste figure. Questo non viene fatto. Quindi la politica di respingimento che viene attuata oggi da questo governo è una politica che ovviamente in qualche modo disconosce i più elementari diritti di civiltà, i più elementari diritti civili. La stessa cosa è stata fatta con l'approvazione del pacchetto con sicurezza. Noi questo lo affermiamo anche come associazione di imprese, perché poi vediamo le difficoltà che introducendo queste norme così anche farraginose, anche di difficile interpretazione e poi esecuzione, si generano all'interno delle nostre imprese, perché poi i nostri imprenditori hanno a che fare con immigrati che hanno bisogno dei permessi di soggiorno, dei rinnovi, e si trovano a combattere con situazioni che sono veramente inenarrabili. Nel pacchetto sicurezza, per esempio, è drammatico è l'introduzione del reato di clandestinità, che anche questo fa a pugni con tutte quante le norme civili più avanzate ma nel mondo, perché il reato di clandestinità non va a punire, che è un reato penale poi, non va a punire una infrazione, una penalità, diciamo, che viene commessa, come prevede il codice, contro una persona o contro un bene, ma va a colpire una condizione sociale, umana. Domani potrebbe essere colpita anche la povertà in quanto tale, una condizione, ci potrebbe essere una legge che punisce la condizione del povero. E quindi ecco, tutti questi aspetti generano una involuzione, quindi una crescita culturale, e tutte le politiche che noi vorremmo fossero in qualche modo introdotte per garantire una convivenza sociale adeguata, nei dati che citava nella sua relazione, non ricordo il nome, la ragazza, è importantissimo il dato demografico. Il dato demografico che poi su tutti i tavoli, tutti gli studiosi, tutti sanno quale sarà il destino del nostro paese di qui a 20 anni. E beh, di qui a 20 anni sarà imprescindibile avere a che fare e saper integrare l'immigrazione, gli immigrati, saperli collocare nel giusto ambito e non, per esempio, favorire attraverso norme un'immigrazione spesso che è dequalificata. Anche questo è un altro aspetto. Noi abbiamo la capacità di attrarre le dequalificazioni, non attraiamo le qualificazioni. E anche questo quindi è un sintomo di morte culturale del nostro paese, ma che rischia di diventare anche una morte economica. Grazie. Grazie, mi sembra che veramente in pochi minuti sei riuscito a concentrare una serie di temi importantissimi e centrali per il discorso di oggi, insomma, dalla questione dell'immigrazione come opportunità che si vede a livello macro, ma anche appunto a livello micro, come nel caso dell'artigiano di cui parlavi, ad anche il discorso della Germania, che forse tutto sommato dà anche un po' una nota di speranza, nel senso che poi un mutamento delle politiche può anche incidere sulla realtà sociale e culturale. E Annelore Homberg, psichiatra e psicoterapeuta e docente all'Università di Chieti. Grazie. Come si chiama nel calcio la carta gialla? Quando viene la munizione. La munizione, insomma, qui c'è Davide pronto a mandarmi la gialla e poi rossa. Sono tutti bianchi. Ok, d'accordo, ok. Il riferimento alla Germania, ovviamente io che sono tedesca, anche la nazionalità tedesca, è estremamente invitante, però il tempo è già poco. Però proprio in queste settimane è nato anche in Germania un dibattito molto acceso proprio sull'integrazione, per via di un libro molto, molto discusso. E quello che lei diceva, i grossi problemi sono nati anche perché fino a 15 anni fa, i Gastarbeiter, cioè quelli che dovevano naturalmente tornare nel loro paese, che spesso sarebbe stata la Turchia, non avevano il permesso di collocarsi se non in determinati quartieri, per esempio di Berlino, che poi a distanza di anni, con gli immigrati che non sono più immigrati ma sono cittadini tedeschi sul famoso background di immigrazione, si trovano a vivere in dei quartieri estremamente a volte problematici e contribuiscono a rendere problematici. Quindi c'è tutto un dibattito. Mi fa piacere sentirlo dall'altra parte, che lei pensa che qualcosa sia stato fatto all'interno della Germania. Ovviamente in questo momento il dibattito continua per tutto quello che non si è ancora fatto e come si possa migliorare, e soprattutto forse è scattato anche una fase in cui si può dire in maniera più onesta che ci sono anche moltissime resistenze e difficoltà di cosiddetti autoctoni con gli immigrati o gli immigrati, ex immigrati, eccetera. Quindi c'è un dibattito un po' feroce, ma anche sorprendentemente franco in proposito. Per questo, Pino ha detto che si è sentito inadeguato, anch'io ho avuto una reazione di incompetenza quando sono stata invitata, perché io non sono una psichiatra che si occupa in particolare di migrazione. Mi occupo del rapporto uomo-donna a livello di insegnamento, ma non ho mai lavorato specificamente in servizi per persone che vengono da altri paesi, quindi non sono competente per dire queste cose. E ho pensato subito ai colleghi miei che invece lavorano nei CIM, nei servizi di salute mentale, nei quartieri multietnici. Ho pensato ai giovani colleghi che sono andati proprio a lavorare, chi a Londra, chi altrove, nei quartieri in cui c'è un alto tasso di immigrazione. Ho pensato alla collega Rossella Carnevale, che vedo con piacere qui, che è appena tornato da Parigi, ha proprio lavorato in un servizio psichiatrico, psicoterapico per persone appunto immigrate. Quindi quello che io posso dire sono, per un verso, connotazioni che sono un po', come dire, arcisapute, un po' da insegnamento di psicologia al primo anno, un po' qualcosa che spero sia un'impostazione, un tentativo di impostazione generale della problematica, nella speranza che non sia una cosa fumosa, ma che riesca a contribuire affinché tutto questo dibattito e anche questi numerose attività escono fuori dall'ambito della buona volontà, che però insomma rimane anche un po' senza, diciamo così, delle radici vere e proprie nella realtà. Se lei diceva prima giustamente di questo fatto che in una situazione in cui una società o un gruppo si trova in difficoltà per ribaltamenti economici eccetera, si cerca un cosiddetto capro espiatorio, lei ovviamente ha già indicato quello che è un meccanismo ben conosciuto, perché appunto il rapporto col diverso molte volte si articola in questa maniera estremamente feroce. Detto brevemente, conosciamo tutto il fenomeno, una dimensione interna di senso di inadeguatezza, di debolezza, di insufficienza viene proiettata su una persona, un gruppo di persone facilmente individuabili, che poi sono appunto quelli che vanno a rappresentare per tutti ciò che loro non accettano in se stessi e quindi deve essere espulso. Questo è una, come dire, una specie di esorcismo ovviamente patologico, a cui si addicono bene parole come disprezzo, l'odio per l'altro, e quindi è una dimensione in cui potremmo ancora dire che ci sono determinate emozioni molto brutti, ma c'è ancora una dimensione emotiva in qualche maniera palpabile, non è comunque piacevole per il diretto interessato. Viceversa, esiste qualcosa di peggio, che fosse meno conosciuto di questa, diciamo così, individuazione del capro espiatorio, è quello che noi psichiatri chiamiamo la percezione delirante, ovvero sia quando, come dire, l'altro viene sempre visto come qualcosa di cattivo, qualcosa che non va, però appunto si slitta direttamente nell'ambito di dire sì, lo so che è una persona che si chiama così, quindi sarebbe un essere umano, ma io so anche che è pericolosissimo, che quasi quasi è un essere umano, e contemporaneamente però è come ci vedessi, ci leggessi, percepissi qualcosa di non più umano, ma in senso pericoloso, no? Allora diventa un mostruoso, un mostro, oppure un parassita, oppure un qualche cosa che crea, diciamo, delle angosce e diventa una minaccia. Non siamo abitualmente in questo ambito, nella situazione della schizofrenia nostrana, ma nella storia, se pensate al nazismo, queste dinamiche, come dire, si sono ben e tristemente verificate. Altra cosa che vorrei ricordarvi è un fenomeno della psicologia di gruppi che potremmo chiamare così noi contro loro, no? In cui appunto c'è un gruppo che si dà una parvenza di sicurezza, di identità, individuando il nemico, loro. E quindi questo compatta il gruppo, che come tale forse invece avrebbe infinite tensioni interne che non lo fa tenere insieme, però a patto che ci sia l'altro avversario. Dall'altro questo è una dimensione che molte volte rinforza la presunta necessità che ci sia un leader forte. Tutte queste dinamiche le vediamo attualmente, ma direi in maniera lucida, distinta, per esempio in Francia da Sarkozy, che in una situazione di sua difficoltà indica invece i Rom come, insomma, il vero problema e appunto una minaccia per il paese. Altro fenomeno, e qui vado un po' nell'ambito del politicamente scorretto, è quello che potremmo chiamare una scissione in buoni e cattivi, e questo forse riguarda anche noi. Perché a volte succede anche noi che ci consideriamo forse a ragione persone di buona volontà, però poi facciamo questa scissione che appunto i xenofobi sono i cattivi e noi siamo i buoni. E facciamo l'esatto opposto di quello che fanno, diciamo, gli xenofobi. Allora, se un cattivo xenofono parla male di Rom costantemente, indiscriminatamente, noi parliamo indiscriminatamente e costantemente bene appunto di una persona appunto Rom. Quindi rispondiamo a una demonizzazione o appunto una espulsione con un fenomeno che neanche quella è veramente un rapporto con la realtà azzeccata, perché è un po' quello che noi chiamiamo grossolanamente idealizzazione. Dove gli altri vedono il demonio, noi idealizziamo. Magari questa cosa è particolarmente in qualche maniera di cattivo gusto e fastidioso se a fare questi sproloqui, insomma, sui buonissimi, indiscriminatamente angelici, diciamo così, persone di altri paesi, sono magari persone che vivono al centro di Roma e gli immigrati li vedono giusto come con la donna che li pulisce le scale, insomma, quindi... E poi magari vituperano chi va invece abita, che non so, in un quartiere molto più problematico, e qualche volta dice: io però a volte la sera mi sento un po' in difficoltà perché ho paura. E forse non ci si rende conto che questo fenomeno della idealizzazione, e di questo noi siamo per partito preso i buoni, in qualche maniera è idem offensivo per chi viene così costantemente considerato positivo. Perché di nuovo non è mica un rapporto vero con la realtà di questa persona. Come tedesca che vive da 36 anni qui a Roma, in Italia, io sono un'immigrata di lusso, con mille privilegi. In 36 anni mi è successo un'unica volta, era una fila alla posta, che qualcuno mi dicesse: brutta stronza, perché non te ne torni al paese tuo? Un'unica volta in 36 anni, insomma non c'è cosa dire, ma mi è capitato più spesso questa, diciamo, generalizzazione in senso positivo. Se per esempio studiando qui la Sapienza io non avevo preparato bene un esame, capitava, e lo posso capire, che il professore poi dicesse con malcelata soddisfazione, non mi dicesse: ma lei non ha studiato, ma mi diceva: ma da lei come tedesca mi sarei aspettare di più. E quindi in tutte le discussioni che ho seguito anche in queste settimane, aspettando oggi le discussioni nella televisione tedesca, le persone immigrate o che erano immigrati di seconda, terza generazione insistevano su questo punto. Dice: è fondamentale di prendere una persona a sé stante. Ogni persona è un essere umano a sé stante e va visto per quello che è, per quello che fa, nel bene come nel male. E quindi non importa in questo se deriva dalla Turchia da una settimana o se invece è romano o berlinese da 12 generazioni. Insomma, questo insiste sul fatto che giudica anche positivamente, ma per categorie, fa un rapporto che in fondo un non rapporto, un rapporto astratto con l'altro, e anche questo in qualche maniera non credo che ci porti da nessuna parte. Tutto questo per dire che il rapporto con l'altro è per tutti un rapporto estremamente difficile, e credo nessuno possa dire che non abbia questo problema. L'incontro con qualcuno che mi presenta una, come diceva lei, alterità, una diversità, è comunque un momento di crisi che può addirittura avere una valenza di destrutturazione se la persona che vive questa crisi non ha una identità personale sufficientemente profonda. E questo vale sia per gli autoctoni, ho imparato questa parola e ne sono entusiasta, sia anche per immigra, perché anche per loro noi siamo diverso, e come dire, anche si tratta di in qualche modo trovare un rapporto che sia reale. Allora, il concetto di identità profonda ovviamente è molto famoso, e Davide ha parlato di identità culturale, quindi anche io mi metto, per il poco tempo che rimane, in questo campo spinosissimo che è la discussione che cosa è l'identità. È stato un bestseller, un libro di un premio Nobel in economia che parlava di identità e lo trattava, se ho letto bene, soprattutto in termini di identità di appartenenza. Io ho un senso della mia continuità di esistenza dell'io per appartengo a un gruppo o una determinata situazione. Temo però che il concetto di identità di appartenenza è di per sé fragile e non permette un valido rapporto con l'altro, perché l'appartenenza per definizione presuppone che ci sia qualcuno che non appartiene, no? E quindi l'appartenenza ha sempre un gemello invisibile che è la non appartenenza, l'esclusione, e questo insomma in qualche maniera fa prevedere, diciamo, degli scontri che non risolvono tutto il problema. Allora, ci sarebbe da cercare un concetto di identità, potrei dire di appartenenza al genere umano come tale, che non prevede il concetto di esclusione. Ci sarebbe da cercare qualcosa di questo tipo, che un po', come dire, coincide con questo concetto che amiamo tutti quanti molto, dell'uguaglianza di tutti gli esseri umani. E sapete che questo è un concetto molto recente nella storia dell'umanità, perché viene fuori con la dichiarazione di indipendenza degli americani e poi con la rivoluzione francese, quindi da 250 anni scarsi, e sfocia in maniera grandiosa qui nella Costituzione italiana, articolo 3, a livello internazionale sfocia nella dichiarazione dei diritti universali dell'uomo, sempre del 48. E vorrei leggervi le prime due righe di questa dichiarazione, che dice, articolo 1, tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Adesso mi improvviso letterato e faccio analisi del testo e prendo la prima frase. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali. Liberi e uguali, chiaro riferimento alla rivoluzione francese, tant'è vero una frase dopo ci viene pure la fratellanza. Però quello che colpisce da 200 anni è il verbo nascono. No? Quindi, come dire, l'uguaglianza umana, il fatto di essere un essere umano, viene ricollegato al fatto che si è nati. Ovvero sì, io deduco, forse ingenuamente, chiunque viene fuori da un ventre materno dopo un lasso sufficientemente, diciamo, ampio di gravidanza è un essere umano ed è libero e uguale a tutti gli altri. Ok, poi vado alla seconda frase che recita: gli esseri umani sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire verso gli altri in spirito di fratellanza. Costato A, che allora, mentre la libertà e l'uguaglianza sono in qualche maniera garantiti, quello, la fratellanza, quindi di non essere nemici l'uno e l'altro, sembra un po' un ideale, è una specie, diciamo, di appello, si dovrebbe fare così, non viene considerato come insito nella, diciamo, chiamiamola nascita umana. Però più confondente ancora è questa dicitura: gli esseri umani sono dotati di ragione e di coscienza. Se lo mettono qui, credo sia lecito pensare che vogliono in qualche maniera dire che cosa fa, per chi ha stilato il testo, la vera natura, cioè l'identità umana. E leggo le parole ragione e coscienza. No? Questo, allora si crea già una certa contraddizione, perché per un verso è la nascita, allora ci sarebbe un essere umani, ma l'identità invece che la nascita, che si lega alla nascita, e invece, come dire, l'identità vera è ragione e coscienza, con il problema ovvio che un neonato, come ha già detto Pino, non è che ha tanta ragione, insomma, e anche, diciamo, la coscienza, come dire, è tutto da discutere quanto ne ha, insomma. Quindi allora, un neonato sarebbe un essere umano, esisterebbe, ma la vera identità umana non ce l'ha ancora, quindi c'è un po' un problema. Per chi di noi conosce un po' la storia del pensiero sa che questo, la seconda frase, deriva certamente, diciamo, dall'apporto dell'illuminismo nella storia della cultura del pensiero occidentale. Poi è stato già anche detto, anche le donne, vabbè, adesso stiamo migliorando, però come dire, tanto razionicianti non siamo, forse siamo considerati a torto ragione come troppo emotive, e quindi anche noi questa piena identità forse potremmo anche non raggiungerla mai. Per non dirvi altre persone che forse non ci arrivano mai, perché in quella bella Germania, di cui mi fa un sacco piacere che ne ha parlato bene, però questo libro che è appena uscito, di un signore che tra l'altro ha il bel nome, molto germanico, Saraceno, lui argomenta in termini che la Germania sparirà, perché tra 100 anni saranno tutti, diciamo così, i discendenti dei musulmani, dice lui, insomma, della popolazione quindi d'origine turca o araba, e dice la cosa è grave per vari motivi, anche perché dice scientificamente, qui chiaramente andiamo alla parascienza, sarebbe chiaro che i musulmani, poi un'altra cosa assurda, hanno un quoziente di intelligenza mediamente inferiore a quello degli europei, ed è grazie al cielo che non dice degli ariani, insomma, però insomma questo è un po' il concetto. E chi ha un quoziente di intelligenza minore, cosa che chiunque può dire di un'altra popolazione, che sono più stupidi, allora non raggiunge mai veramente questo livello di raziocinio e di pieno esercizio delle facoltà coscienti, che invece sarebbe la vera identità umana. Tutto questo per dire che è pericoloso mettere un lasso di tempo per quanto riguarda l'identità umana tra il momento della nascita e il pieno raggiungimento, eccetera, perché là in mezzo, insomma, poi si creano delle disuguaglianze che non sono più in nessun modo colmabile. E questo, parentesi che non dovrei fare, però non ho il tempo, questo è anche una critica ai concetti psicoanalitici sull'origine dell'io umano, sull'identità. Perché se loro dicono che l'io non c'è alla nascita, ma viene a 3-4 anni dopo una serie di identificazioni con la madre, con il padre, eccetera, ovviamente, come dire, poi dicono che l'io quando nasce è già diverso culturalmente, familiarmente. Perché se io mi sono identificata a una madre che va in chiesa e incontro qualcuno che si è identificato con un padre che andava in moschea, e facilmente cozziamo, perché già il nostro io sarebbe costruito diversamente, insomma. Quindi anche questo è un punto, per chi interessa, da prendere in considerazione. Allora, come dire, torniamo al momento della nascita come momento di costituzione dell'identità umana, e diremo il problema è nato lì, è risolto qui, va bene. Però lo stesso signor Saracin scrive nel suo libro in qualche modo delle cose allucinanti, però bisogna pur prendere in considerazione, perché sono le stesse cose che dicono i leghisti qui. Lui non solo scrive: non voglio che i miei discendenti tra 100 anni, quando camminano per la Florida a Berlino, vedano solo moschee e non più chiese, è qua. Ma non voglio neanche che, appunto, non ci sono neanche più, perché i tedeschi tra 100 anni avranno tutti i capelli corvini e appunto la pelle ambrata, mentre i tedeschi, si sa, se vede in me, sono mozzarelle, insomma, bionde, castane, insomma. Quindi arriviamo a un concetto di razzismo che però, e questa è un'ipotesi di cosa, si lega stranamente all'idea della nascita, ma la nascita intesa fosse unicamente come processo fisico, una nascita fisica del corpo, ampiamente, diciamo così, mediato attraverso il DNA. Poi ovviamente scrittori come questo pensano che il DNA veicoli non soltanto i lineamenti, il colore dei capelli, ma anche l'intelligenza, il destino, il modo di essere, eccetera. Però in qualche maniera, se si lega, si pensa solo alla nascita fisica, rimane sempre il rischio che si crea proprio una diversità con la nascita, anzi un'uguaglianza, perché appunto il corvino e il biondo e il biondo, il roscio, insomma. Quindi, e qui chiudo, con l'idea che allora, come dire, dovremmo forse invitare chi è interessato, i politici, a prendere in considerazione un'ulteriore considerazione che proviene proprio dall'Italia e che si lega alla, appunto, quello noto come la teoria della nascita fagioliana, che è un po' complicato, insomma, da leggersi sui suoi libri proposti, ma in soldoni, qui sono adesso molto, così, molto schematica. L'idea fondamentale è che nel momento in cui nasce il corpo, nascita fisica, e quindi si esprimono una serie di cose, fatezze, così, eccetera, eccetera, contemporaneamente avviene anche un, così possiamo dire, nascita dell'io, cioè in virtù, chi vuole può leggersi, di processi biologici che sono puramente biologici, quindi che hanno tutti i feti del mondo, processi biologici durante la gravidanza e in virtù di un determinato assetto posizionale specifico, l'essere umano, di tutti gli esseri umani, quando il bambino viene alla luce si viene anche a creare un primo io che è un, ecco, la dico grosso, un primo pensiero, un primo tendere rapporto, per caso verso la mammella, e in generale però verso il rapporto interumano, e un primo sapere di sé. Questa capacità di immaginare, ovviamente non è un pensiero come ce l'abbiamo noi adulti, non nessun neonato pensa, ah, ecco, sono a Roma, in questa stanza, speriamo che la mamma è carina, insomma, ecco. Però ha un, come dire, un senso di esistere e un sapere, un pensare ai rapporti interumani che sono peraltro indispensabili per vivere. Questa è un'idea che lega la nascita, diciamo, dell'identità umana a questa nascita fisica combinata con la nascita della mente, di un io. Ed è effettivamente una cosa che non si può, come dire, contestare, che questo ce l'abbiano tutti gli esseri umani, e non importa se sono nati in Namibia o in Australia o, che ne so, o in Cina, cioè di un'idea di una uguaglianza per una capacità di pensare, immaginare, di rapportarci, che abbiamo appena veniamo al mondo e che fa tutto il nostro primo anno di vita senza parole, che tra l'altro tutti gli esseri umani hanno in comune. E c'è questo fenomeno assolutamente strabiliante, come dire, che si può, tra virgolette, parlare con un essere umano se ha meno di un anno. Cioè, non ci si può parlare. Però, come dire, a un certo punto i bambini piccoli, voi lo saprete, dei figli, lallano, dicono, ah, ah, boh, boh, e ci si possono intavolare, diciamo così, delle comunicazioni molto precise. E questo baby talk si parla in tutto il mondo, ci posso parlare anche appunto con un piccolo cinese. Un anno e mezzo dopo avrà imparato il cinese e io non ci capisco più, non ci capiamo più da questo punto di vista. Ma quella cosa lì del primo anno di vita, quella cosa c'è che ci accomuna e che tutti noi tra l'altro dimentichiamo. No? Se non abbiamo paura di questa dimensione, se ci siamo in rapporto, se non la temiamo come il temibile inconscio di freudiana memoria, può essere qualche cosa che noi abbiamo dentro e che ci permette anche di riconoscere nell'altro. E quindi diventa un rapporto in cui sono una serie di diversità. Tu sei bambino, io sono adulto, tu sei uomo, io sono donna, tu sei africano, io sono europea, eccetera. Ma riconosco che sotto c'è appunto questa identità umana profonda, e questo rende molti incontri molto più calmi, anche molto più fruttuosi. E per chiudere vorrei raccontarvi un'altra esperienza berlinese, chiudo davvero, perché è uscito adesso, e spero che arrivi anche in Italia, questo film che non è fatto a sostegno della teoria fagioliana della nascita, dell'origine dell'io, però che è un documentario veramente affascinante se uno si legge, diciamo, con queste conoscenze. Si chiama semplicemente Babies, è di un documentarista francese che si chiama Balmes e che ha fatto una cosa che si fa sempre nell'ambito universitario, ha fatto il baby watching, cioè per un anno è andato a, come dire, filmare lo sviluppo di un bambino che nasce in Mongolia, che nasce in Namibia, che nasce a San Francisco e che nasce a Tokyo, e ha seguito la loro evoluzione. E poi anche, insomma, non è solo un documentarista, ci sa fare, quindi è un film estremamente divertente. E la novità fosse questo, che come dire, punta non sul rapporto tra bambino e madre, come si è sempre fatto nella nostra scienza, ma proprio sul bambino, come se questa intuizione, ma il bambino a sé stante, poi se ha bisogno della madre, è chiaro, insomma, ma c'ha qualche cosa di estremamente importante ed è un essere umano e forse qualche cosa che ci collega. Contenuto interessantissimo, puntualmente non visto, in particolare, ahimè, e questo mi deprime, dai giornali quotidiani di sinistra, perché sulla Tageszeitung, che certamente non è reazionario, la recensione di questo film era una struncatura unica, perché, ed è una donna che scriveva, diceva, beh, io mi aspettavo più roba politica, paesi di sviluppo, paesi ricchi, cose di questo genere, invece che si fa vedere là? Semplicemente i bambini, che fanno quello che fanno i bebè sempre, dormono, ciucciano, fanno la cacca, strillano, insomma, che noia. Cioè, questo è pericoloso, quando proprio quelli che dovrebbero avere più, come dire, sensibilità per questa tematica, poi con un'ottosità da prosciutto agli occhi vedono che lì hanno qualcosa che sembra invisibile, che sembra sfuggente, ma che può essere un punto di pensiero fondamentale per un rapporto finalmente umano con il diverso. Grazie ad Anna anche per questa, diciamo, prova, direi anche fisica, proprio di inscatolare in, diciamo, abbastanza pochi minuti una serie di temi molto, molto, molto profondi, molto importanti, che spero, diciamo, in qualche modo costituiscano un ponte per la sessione successiva e che verranno anche ripresi nel dibattito. Ora, io, se voi siete d'accordo, se l'organizzazione, diciamo, impersonata da Pino è d'accordo, penso che forse potremmo anche non fare una vera e propria pausa, ma semplicemente un lento cambio di tavolo, in modo da consentire chi proprio abbia esigenze in pelle. Tra l'altro non c'è anche il coffee break, credo, quindi non c'è proprio motivo di fare una pausa più lunga, e però semplicemente non lo so, dite voi, no? Insomma, possiamo fare una pausa se volete, oppure io a questo punto, intanto sono arrivati molti relatori importanti, molti amici, io se non vogliamo fare una vera e propria pausa, ma vorrei un segnale da voi, continuiamo? Sì, continuiamo. Allora, volevi fare breve una pausa brevissima? Sì, per chi sta magari qui seduto da un po' di ore, magari facciamo 5 minuti di pausa, poi Anna Pavignano ci leggerà delle cose meravigliose. se siete pronti, io allora mentre Shukri Said, Ruffini, Manconi e Melis prendono posto al tavolo, posso annunciarvi una cosa molto bella, un intervento di una scrittrice, sceneggiatrice, i titoli sono tanti, io ho ripreso ad amare i suoi testi da In bilico sul mare, ma ce ne sono tanti che magari ci racconterà lei e ci racconterà e ci dirà anche perché ha scelto questo modo particolare di intervenire all'emergenza identità, un modo secondo me molto intelligente. Anna Pavignano. Buongiorno. Bene, Anna Pavignano, io faccio la sceneggiatrice, la scrittrice. E ho scelto di intervenire leggendo una cosa che ho scritto, perché poi di fatto io questo faccio, scrivo, forse scrivo un po' meglio di come parlo, comunque quando scrivo mi sento più a mio agio. Quando Pino mi ha coinvolta in questa avventura, insomma, io ho provato quello di cui ho sentito parlare anche da altri, cioè un senso di inadeguatezza, come dire vabbè, ma io non sono una studiosa dell'argomento. E poi ho pensato che però facendo il mio lavoro, in effetti quello che potevo fare è raccontare delle storie, dei ricordi, delle cose che vedo intorno e provare a descriverle, dato che poi appunto ho il privilegio di avere il tempo e la possibilità di soffermarmi sulle cose che vedo e di poterle raccontare per lavoro. Tra l'altro pensavo di non essermi mai occupata nelle cose che avevo fatto di immigrazione, perché se non per una sensibilità mia, cioè è vero che è un tema che mi tocca particolarmente, trovo particolarmente tra le varie cose scandalose e dolorose, insomma, che ci circondano, mi sembra che certi comportamenti, certe leggi e anche un modo di pensare che sta nella gente a volte sia veramente inaccettabile e soprattutto segno di ignoranza e di non voglia di comunicazione. Però insomma questo è un discorso lungo che non faccio, però mi sono ricordata che poi in uno dei miei film che io ho scritto quando ero molto giovane, che era Ricomincio da tre, che ho scritto insieme a Massimo Troisi, c'era poi questo tema dell'emigrazione, perché c'era una battuta che tra l'altro poi mi sono ricordata adesso, se no avrei portato anche il DVD, così ce lo rivedevamo insieme, dove appunto Massimo Troisi parte dal sud per andare al nord per un viaggio, così perché ha voglia di conoscere, di incontrare gente, e ad ogni incontro che fa gli chiedono: ah, sei napoletano? Sì. Emigrante? Dice: no, io sono andato in giro per conoscere, per parlare. E insomma poi alla fine si trova costretto di fronte ad un medico particolarmente autoritario ad ammettere: sì, sono emigrante. Che vabbè, era un elemento di commedia, era una cosa che faceva ridere, che faceva parte del suo personaggio. Volendola analizzare, in effetti poi era come un rovesciare il concetto dell'emigrante, che non solo sei costretto ad essere emigrante, ma se una volta non lo sei, comunque sei considerato emigrante, quindi con tutte le cose che si porta dietro questa condizione. Quindi diciamo che una cosa che era nata poi per far ridere in qualche modo, però poi aveva dietro un significato, volendo. Sì. Questa cosa qui non funziona. E ecco, quello che ho fatto in questa occasione è stato semplicemente di, invece di raccontare i miei ricordi di infanzia, cioè quando io mi sono accorta che esisteva l'emigrante. Io sono torinese e ho vissuto a Torino, cioè ero piccola a Torino negli anni 60, quando appunto c'è stato il boom, c'è stata l'emigrazione, la Fiat che chiamava manodopera dal sud, ed essendo di famiglia torinese, quelle vere che non ci sono più, ho un po' raccontato qual è stata la mia educazione nei confronti dell'emigrazione, cioè come ho imparato, cioè come a Torino, tra virgolette, si insegnava il comportamento nei confronti degli emigranti. E quindi leggo. Sì, poi l'ho messo anche in relazione con, vabbè, insomma, è più ampia la storia. Fuori dal supermercato cercava di vendermi i calzini. Non li volevo. Ha insistito con garbo e ci siamo messi a parlare. Da dove vieni? Che cosa facevi in Ghana? Alla fine gli ho chiesto io quanto voleva per i calzini finto Nike, quelli che fanno sudare il piede, si bucano subito e alimentano il giro vizioso dello sfruttamento dei più deboli. Io pargli merce scadente, lo tratta come fosse trasparente, invisibile, ma al tempo stesso un pericoloso criminale. Ti salta addosso se sei femmina, ti ruba il portafoglio se hai 2-3 euro dentro, ti strangola se sei vecchio. La mia storia comincia nel profondo sud della provincia di Novara e continua a Torino, città dove oggi, in certe zone, e lo so perché ci vado sempre a Barriera di Milano, dietro Porta Palazzo, dove le scritte sui negozi sono solo in arabo. In certe zone si respira un'esasperazione sempre meno discreta, sempre meno bujanen, fatta di intolleranza grezza, che non riesce a conservare nemmeno quel falso e cortese che un tempo serviva a far sembrare civili anche i rapporti con quelli che erano i terroni, gli incivili, gli invasori. Bisogna dire che sì, quegli stessi terroni che i piemontesi per vari motivi rifiutavano, mamma Fiat a modo suo li difendeva, dando loro un'identità di lavoratori, di classe operaia, di sfruttati. Anche questa era un'identità. Ma in nessuno ha detto che i terroni venivano a rubare il lavoro ai torinesi. Oggi i neri vendono i calzini perché non si riesce a far capire alla gente che servono ad altro. Le industrie dell'est, le campagne del sud e le famiglie che li usano con gli anziani, malati, bambini. Oggi i migranti hanno un'identità negata. Allora, negli anni 60-70, gli operai, piemontesi e terroni, lavoravano insieme alla catena di montaggio, lottavano fianco a fianco contro il padrone. Torinesi e meridionali, indigeni e migranti, avevano un comune obiettivo, salvaguardare i loro diritti, uguali. Odiandosi, insultandosi, terun, pulentun, e con gli insulti imparavano a conoscersi, arrivando poi al massimo possibile dell'integrazione per la città e la gente di allora. Una città dove si viveva di Fiat, si andava a dormire presto per essere puntuali a timbrare il cartellino, dove non c'era un ristorante aperto dopo le 9:30 di sera. La sera si preparavano i barachin. Un pentolino a 2 scomparti, uno per il primo e uno per il secondo, il pasto del giorno dopo in fabbrica. I piemontesi mettevano la cotoletta panata e i meridionali la parmigiana di melenzane, o dipende da dove venivano e come erano abituati. Che cos'è quella cosa che hai nel baracchino? Cime di rapa. Cime di rapa? Che cosa sono? Mai sentite? Buono è però. Vuoi un po' di cotoletta alla milanese? E assaggio dopo assaggio l'integrazione andava avanti e si paradigmava nella frase via via più frequente in bocca ai piemontesi: è un terrone, però è bravo. Però insieme gli operai del nord e del sud lottavano, manifestavano, vincevano. La prima volta che li ho visti ero sola, in un grande prato recintato, quello di casa mia, e dall'altra parte della rete scorazzavano in un cortile 4 o 5 bambini. Avevano un tacchino e lo rincorrevano. Anche il tacchino era la prima volta che lo vedevo. Avevo 5-6 anni. Scavalcavo la rete e andavo a giocare con loro. Il tacchino mi faceva paura e lo tenevo a distanza. Invece quei bambini mi piacevano. Un giorno un'amica di scuola o asilo, prima elementare, mi disse: non devi giocare con quei bambini. Perché? Mia mamma ha detto che non si deve. Perché? Perché sono i meridionali. E cosa vuol dire? Non lo so, ma non si deve. Erano i primi che arrivavano a Borgomanero, provincia di Novara. Chissà se venivano da Napoli, dalla Calabria o dalla Puglia. Considerati mosche bianche dagli abitanti del posto, se le mosche bianche non avessero avuto in sé qualcosa di positivo in quanto bianche. Loro, i meridionali, no. Erano solo gli invasori. Poi ci trasferimmo a Torino, noi in pieno diritto, perché da là venivamo. La zona di Novara era un episodio lavorativo di mio padre. A Torino capii bene chi erano i meridionali. Le scuole erano piene, si dovevano fare i doppi turni e le classi avevano 40 bambini. Si chiamavano Tricarico, Scognamiglio, Paternò. Di nome Immacolata, Addolorata, Crocifissa. E anche se erano bambine di 7 anni, come me, già crocifisse, già addolorate, tutti i giorni, ogni volta che le chiamavano. Nel ripetere i loro nomi, mia madre non usava un tono normale, ma una strana cantilena e una punta di scherno, come se dicesse quei nomi chiamandoli a distanza, come da un balcone all'altro. Maculata, Addolorata, Salvatore! Salvatore? Non avevo mai sentito nessun bambino che si chiamasse Salvatore. Salvatore di che? Chi aveva salvato? I bambini si chiamavano, non lo sapevo perché le classi erano femminili, ma le bambine si chiamavano Paola, Carla, Marisa, Antonella, Roberta, Cristina. Crocefissa! Era vero, i meridionali si chiamavano a gran voce da un balcone all'altro, dal quinto al secondo piano, dal primo al quarto. Sopra abitava la suocera, due piani sotto la comare e il compare. Comare, compare. Erano il padrino e la madrina, ho scoperto poi, li chiamavano così al sud. E dai balconi si parlavano ad alta voce, con lingue incomprensibili, per un sacco di tempo. Avevano troppi bambini, cucinavano fritto, unto. Le donne erano grasse, vestite di nero, sempre, perché portavano lutto per anni e poi se lo toglievano. Al nord già non si usava più portare il lutto. E dopo 3 mesi se lo rimettevano perché moriva qualcun altro. Le famiglie erano molto più numerose che al nord, dove già da una generazione almeno di figli se ne facevano 2, il numero giusto. I torinesi tra loro chiamavano le donne del sud le boie panatere, che sono gli scarafaggi in dialetto. Gli uomini erano bassi e scuri, l'unghia lunga del mignolo con cui si grattavano l'orecchio, anelli d'oro alle dita e catene al collo, perché si diceva amavano ostentare una ricchezza che non avevano. Ecco, per i piemontesi, i meridionali, i diversi, erano questo. Sui portoni dei palazzi comparvero i cartelli, li ho visti, c'erano, non si affitta ai meridionali. Ma anche affittando, i palazzi non sarebbero bastati, la Fiat chiamava, la manodopera del sud era oro, bisognava costruirne palazzi e metterli tutti lì, terroni, alla Falchera, alle Vallette, case di 10 piani tirati su in pochi mesi, ghetti, senza negozi, senza asili, niente. E i torinesi si lamentavano, gli fanno anche le case, come dire, invece di cacciarli gli fanno anche le case. Ma non erano cattivi quei torinesi. Era brava gente che non capiva perché la loro città non era più, come dicevano, un salotto. Soprattutto un salotto dove si entrava in punta di piedi chiedendo permesso. I meridionali erano entrati sfondando la porta e si erano seduti non in punta alla poltrona, ma si erano sistemati ovunque a mangiare pizza, pecorino, cose cucinate con l'olio verde invece che con il burro. Si vociferava che nelle case nuove, con tanto di vasche da bagno, i meridionali piantassero patate anziché lavarsi. E forse una volta sarà successo, ma la leggenda metropolitana aveva preso piede, come se in ogni famiglia di emigranti ci fosse una personale piantagione di patate nel bagno. E così cominciarono gli epiteti. Terun, torna al tuo paese! Un sorpasso azzardato, uno stop non rispettato. Napoli! E i Napoli si incazzavano se li chiamavi Napoli. E così bisognava stare attenti a litigare con i meridionali, perché giravano con il coltello in tasca e ci mettevano niente a tirarlo fuori e infilartelo nella pancia. Vero? Qualcuno forse sì ce l'aveva, e la cronaca avrà sicuramente riportato fatti del genere. La paura serpeggiava. La domenica il luogo di ritrovo era Porta Palazzo. Non si può più andare a Porta Palazzo la domenica, sono tutti di loro. I torinesi, quelli veri, non c'erano mai andati a Porta Palazzo la domenica. A Porta Palazzo, prima dei meridionali, ci andavano i torinesi così così, quelli della mala. I torinesi per bene andavano a Superga a vedere la lapide del Grande Torino, a Piazza San Carlo, nei caffè dove ancora suonava l'orchestrina. Ma il fatto che a Porta Palazzo ci fossero i meridionali dava fastidio. Non si temeva che tramassero qualcosa, questo no. Ma al loro stare insieme bastava degradare la zona, renderla pericolosa, era arrivata alla delinquenza. I meridionali credevano nel delitto d'onore, c'era anche una legge che lo giustificava allora, in una città i cui abitanti erano chiamati i Bujanen, che vuol dire che non si muovono, che vuol dire che le emozioni erano contenute, anche la rabbia per il tradimento. Si incazzavano, dicevano alla moglie fedifraga «bagassa», ma poi portavano le corna con rassegnazione anglosassone. I torinesi furono sempre, nei confronti dei meridionali, capaci di un odio silenzioso, disorganizzato, individuale, covato senza esplosioni di intolleranza, parlando tra noi, con invocazioni precise per le nuove generazioni. «Mi raccomando, non portarmi a casa un terrone», dove portarmi a casa voleva dire sposarsi. «Certi non sono cattivi», dicevano i più tolleranti, «ma non sono la nostra razza». Di razza si parlava nelle famiglie torinesi, senza cattiveria o con la cattiveria sorda di un razzismo bujanen, un razzismo immobile che odiava senza darlo a vedere. Ormai i torinesi che hanno odiato i meridionali perché li avevano messo in disordine il salotto sono vecchi, sono pochi, parlano ancora in dialetto tra loro e si dicono con rassegnazione ormai siamo rimasti pochi, dei neri, rumeni, polacchi. Hanno paura, dicono che hanno invaso la città, sono tutti di loro, dicono, sono un pericolo. E se gli ricordi che dicevano le stesse cose dei meridionali, ti rispondono, ma almeno i meridionali erano italiani. E tutti insieme, vecchi torinesi, meridionali oggi integrati e i loro figli meticci, sono d'accordo nel dire che con tutti questi arabi e africani, qualcuno sostenuto anche dall'arguzia di certi politici, li chiama ancora bongo bongo, che puzzano, fanno troppi figli, parlano che non si capisce niente, urlano, si ritrovano la domenica a Porta Palazzo e rubano, ammazzano e violentano, Torino è diventata un disastro. Beh, insomma, era da tanto tempo che ce l'avevo qui questa cosa, perché qui vuol dire qui, perché effettivamente tutte le volte che vado a Torino, proprio perché forse la mia famiglia d'origine abita appunto in questo quartiere Barriera di Milano, dove effettivamente c'è una concentrazione di stranieri molto forte, io sento proprio la rabbia della gente e mi dispiace essere, no, non perché, cioè come si diceva prima appunto, cioè come diceva la dottoressa Anne Lore, sì, non bisogna demonizzarli ma neanche angelizzarli, però io devo dire che mi dispiace essere parente di persone che dicono certe cose, sono proprio brutti certe volte. E questo va bene, io più di tanto su questo argomento non dico, perché appunto io ho raccontato questo e poi perché sono state dette cose molto belle che si riuscivano tra l'altro a seguire molto bene, insomma mi sono molto piaciute, quindi non dico altro. Io se c'è ancora il tempo, 5 minuti veri, invece siccome il tema era anche le donne e allora mi è venuto venuta da fare una considerazione un po' meno narrativa, forse sembra un po' più teorica, dove tra l'altro, ecco, uso il concetto di identità in maniera un po' ruspante, spero che insomma mi perdoniate, però da un fatto di cronaca di quest'estate mi è venuto di fare una considerazione che io spero sia semplicemente un mio delirio, che non sia, cioè che sia un'osservazione che magari non è giusta, perché ho provato una sensazione inquietante leggendo appunto questo articolo, sentendo questo fatto che è accaduto. Un uomo, sicuramente non uno come tanti, ma un violento, un bruto, è stato lasciato dalla fidanzata, è uscito di casa e ha ammazzato la prima donna che gli è capitata. La notizia è arrivata così quest'estate, credo che nessuno abbia scavato dietro questi fatti più di tanto e che l'opinione pubblica, maschile e femminile, si sia fermata ad uno sgomento e ad un orrore generale e via. Mi chiedo se questo episodio così grave possa essere relegato solo in un fatto di cronaca, o se non dovrebbe essere portato al centro di un'analisi seria delle dinamiche e dei comportamenti attuali per quanto riguarda gli uomini e le donne. Mi chiedo se questo assassino sia solo una scheggia impazzita o se non sia invece la punta di un iceberg, non tanto di un maschilismo che si fa sempre più violento, anche, quanto di una disperante frattura fra il maschile e il femminile. Questo delitto, rispetto a tutti gli altri di uomini lasciati che uccidono la moglie o la fidanzata, ha una differenza. Quest'uomo non ha ucciso la donna che lo ha lasciato, ha ucciso una donna qualsiasi. Va bene, era in preda all'ira. Ma non è che gli altri mariti e amanti che uccidano da calmi, in genere. Dentro l'ira, per quanto accecante alla violenza, si possono leggere dei significati, dei contenuti. Quest'uomo ha sentito di poter soddisfare la propria ira non punendo quella che secondo lui era la responsabile diretta del suo dolore, dell'offesa, dell'abbandono. Non ha ucciso, mettiamo il caso che la fidanzata si chiamasse Maria, non ha ucciso Maria, 30 anni, mora, occhi azzurri, caratteraccio che lo faceva impazzire, che gli ha fatto le corna con un suo migliore amico, per esempio. Lui ha punito con la morte una donna, ripeto, qualsiasi. Quanti omicidi ci riporta la cronaca tra vicini di casa? Ecco, è come se uno, accecato dall'ira perché il vicino di sopra gli butta la spazzatura sul balcone, uscisse di casa dicendo: esco e ammazzo il primo vicino che incontro, e incontrando il vicino del piano di sotto lo massacrasse di botte fino ad ucciderlo. Di Maria la cosa che ha voluto punire è l'essere donna, è stata l'identità femminile, e quindi non ha avuto bisogno, per sfogare la sua ira, di incontrare Maria, quella vera, la prima donna che passava andava bene. L'analisi da qui in poi potrebbe essere lunga, capillare, complessa. Ci vorrebbe un saggio, uno studio, un'indagine, che si chiedessero se il fatto che la violenza non si scateni contro una persona ma contro un'identità non sia preoccupante. Se il delitto di quest'estate, oltre al suo contenuto di sopraffazione e violenza, non denunci, per ora solo come spiraglio, un odio possibile tra la categoria maschio e la categoria femmina, simile ad un odio razziale. Non lo so, lo temo. Comunque succede sempre più spesso, anche nel dialogo quotidiano, che si finisca, uomini e donne, col trincerarsi dietro a stereotipi di identità. Uomini stronzi, donne puttane traditrici, femmine sensibili, maschi anaffettivi. Dobbiamo stare attenti e attente nei comportamenti, nei sentimenti e nel sociale a non dimenticare la categoria che sta sopra, la categoria essere umano, senza appiattire le diversità, senza negare le ingiustizie, le prevaricazioni, ma senza generalizzare. Se no, quello fra maschio e femmina potrebbe diventare un conflitto di identità vero e insanabile, o quasi, come israeliani e palestinesi. La comunicazione diventerebbe impossibile e diventerebbero impossibili l'amore, la passione e così via. È finito. Grazie a tutti.